Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non mi interessa. Non mi interessa. Una cosa, io sto andando in Slovenia per lavoro, domani sera voglio andare a Mignotte. Buonasera, dunque sono un medico, volevo dirti che quello che hai letto circa i danni della porta anale sono veri, io mi occupo di questo. Tu lo pratichi? No, purtroppo no, non purtroppo, perché ho una compagna che non gradisce. Ma non è buono questo qua, ma amico cosa mio. Ti intrometti nella dinamica, ma di coppia di questo qua? Ma dopo tanti anni uno passa, a un certo punto passa l'inculata, ma scusa amico mio. Ma non è detto, amico mio, dopo tanti anni se non hai scoperto sta roba, che cazzo ci stai a fare insieme a questa qua? Se non si... Ma guarda che è incredibile. Forse per altri motivi, anche migliori che soltanto un'inchiappettata. Semplice, semplice. Se volete dei consigli sui puttana in Slovenia, o volete andare a leggere un bel romanzo in Slovenia con Parenzo, o se solo per quest'idea volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete parlare delle vostre prolassi rettali, o volete subire una mortificazione da Cruciani perché la vostra compagna non lo prende nel culo, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al putantop. Ragazzi, qui non c'è niente da ridere però, non c'è nulla da ridere, niente da ridere amici miei, niente da ridere con quello che è successo a Lodi, niente da ridere, ma voi vi rendete conto, tu anche se sei lì... Ma pensavo dicessi al sole, no, pensavo dicessi al sole 24 ore, attenzione. Ah, Lodi. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, Lodi, prima partiamo da Lodi. Sono a Strasburgo io amico mio. Sì, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, Lodi, no. Allora, il fratello del 33enne o 28enne è rumeno, ma sì, poteva essere anche un palermitano adesso, però è romeno, bisogna dirlo, è romeno, il quale è rimasto stecchito dopo la fucilata presa dal ristoratore Cattaneo. Non dirlo con questo godimento, no, è rimasto morto, stecchito, è morto una persona. Ma posso dire che non mi fa nessuna pietà però? Cioè posso dire senza essere insultato che non mi fa alcuna pietà? Vabbè. No, no, devi, ma se muore uno, anche un ladro, è un criminale, no, in Italia non c'è la pena di morte, quindi però no, per sto carità, dicendo, non mi fa roba, pietà. Dai. No, sto dicendo, vai, non vai, mi fa a farti, vai a farti un selfie anche tu con, no, con l'oste, no, con l'oste, come ha fatto Salvini. Vai a fare il tour come fa Salvini, no? Non ho capito. Io oggi a Strasburgo ancora non l'ho visto, magari domani lo vedrò. Sta facendo il tour di quelli che hanno sparato. Il tour dell'orrore, certo, il tour di quelli che hanno sparato fa. Ma non ho capito, uno non può selfie. Fare politica, sono non può qua. Dare solidarietà. Il selfie, così, tum, il selfie fa, il selfie con l'host che ha sparato. Cioè il è selfie. Uno schifo andare il a selfie. Cena e farsi... Hashtag io sto con Stacchi, ma non è schifo, è una strumentalizzazione assurda. Ma se perché quello fa politica hoste, da una vita su questa roba qui. Starà male pure lui per aver ucciso... l'hai detto tu, esatto, fa politica su queste cose qui. Ma bravo, anche bravissimo. Sulla questione della fa legittima difesa su questo. Balla sui cadaveri, d'accordo? La posso dire tutta? Sono al Parlamento Europeo, quindi vuol dire che ho l'immunità visto che sono qui o no? Comunque ragazzi, al di là di tutto, adesso sentiremo tutte le voci eccetera, il fratello del signore romeno rimasto stecchito. E tutti quanti devono ammettere, anche quelli che dicono, beh, io sto parlando, no, non parliamo così dei morti, non gliene frega niente a nessuno. Anche quelli che dicono, sì, bisogna pensare anche ai morti, bisogna pensare anche a quello che è morto, non gliene frega niente a nessuno, inutile che fate gli ipocriti. Anche voi che dite, però, è morta una persona, non me ne frega nulla. Niente, almeno io ho il coraggio di dirlo che non me ne frega niente di quello che è morto. Capito? Almeno io ho il coraggio di dirlo. Quelli che dicono, invece, bisogna pensare anche a quello che è morto. No, sono ipocriti, non gliene frega niente nemmeno a quelli. Comunque, il fratello dice... Lo perdono, cioè lui perdona il fratello del romeno, Ungureanu, come si chiama, che sembra un giocatore della nazionale romena, dice che lo perdona, cioè che perdona il ristoratore di Lodi, però vuole giustizia, lo perdona. Ma ragazzi, ma siamo impazziti o stiamo dicendo sul serio? Cioè il perdono, capito? Ah, però io lo perdono. Una roba incredibile, dai, incredibile. Oh, Cecchi Paone dà dell'assassino, sì, dell'assassino al signore di Lodi. Sentiamo, vai. E spara. Il signor Mario. E non si deve permettere di dare dell'assassino a Mario, proprio non si deve permettere, perché lei non conosceva questa persona. Perché purtroppo era armato, se tu non sei armato non diventi un assassino. Cosa sta dicendo? Sto dicendo che se tu ammazzi una persona che non ti voleva ammazzare, sei purtroppo un assassino. Secondo lei entrano in casa mia e non devo far niente, quindi se uccidono me, loro va bene, uccido io, sono un assassino. Non ho detto questo. E lei è sereno andando in giro col fucile e con la pistola ammazzando qualcuno e avendo, guarda quello come applaude, quanto siete contenti, applaudite gli assassini, pensate che bel mondo vi state preparando per i vostri figli. Noi dobbiamo lavorare per un mondo pacifico, per un mondo di convivenza, non dovete applaudire chi spara e chi ammazza. Ricordatelo. La solita battaglia tra Cecchi Paone e la piazza che applaude a Mario. Fammi indovinare. Fammi indovinare cos'era dalla vostra parte, questo. Chiaro, fammi indovinare dalla vostra parte di sabato. Dalla vostra parte di sabato. Ah, perché va in onda anche sabato adesso? Eh sì, certo. E dalla vostra parte di domenica? No, c'è, non c'è, domenica? Non c'è. Però non anche c'è. Sgarbi, vabbè, incazzato. Qualche senti. Rom, la domenica, un rom. Non si trova un rom la domenica da mettere in collegamento? Non si trova? La domenica? Senti, Sgarbone, incazzato pure lui, perché il giudice l'ha accusato, ha accusato Cattaneo di omicidio volontario. Ora, è chiaro che i giudici devono fare anche la loro parte, eccetera, eccetera. Però, amico mio, omicidio volontario. Non è la loro parte, è quello che deve essere. Sì, certo. Omicidio volontario, amico mio. In genere mio. Tu fai una fattispecie più larga, ti spiego, ampia di reati, di ipotesi di reato. Non fare il leguleio. Non c'è neppure il rinvio a giudizio. Niente, va bene, allora bene il cadavere morto per strada, perché non gli hanno urinato sopra quel cadavere? Ma che c'entra urinato sopra? A parte che i suoi l'hanno abbandonato come un cane, i suoi amici l'hanno abbandonato come un cane, come un allora, cane randagio. Allora, è ovvio che se tu spari e uccidi una persona, in questo paese, l'ho ripetuto mille, ma a me sembra anche strano dover essere solo a difendere un principio che esiste già la possibilità di sparare, solo che è ovvio che se muore uno, la magistratura deve verificare le dinamiche. Che se c'è stato eccesso colposo di legittima difesa, dentro, ma non è roba da leguleio. Dentro casa tua puoi fare quello che vuoi, ammazzare chiunque si introduca. È arrivato l'editorialista di Libero. È quello che ho sempre pensato. Sì, ho visto, l'hai scritto. Ma ho sempre l'hai pensato anche, anche prima, in ottimo italiano, anche un anno per carità. Fa, anche in un buon anno italiano. Fa. L'hai scritto in buon anche italiano, un anno va fa, benissimo. È un fa. Bel articolo. Anche... E l'ha scritto bene. Ti riconosco che l'ha scritto bene. Era bello. Bella scrittura, eccetera. Ora sei pronto per andare dalla vostra parte per fare noi con Cruciani, per andare a farti fare il selfie dell'orrore con chi spara, non ci puoi fare tutto questo, puoi farti regalare le beretta dal signor Beretta, puoi farti regalare le pistole dal signor Beretta, puoi fare tutte queste cose. Il mio è un altro mondo, però va bene. Comunque Sgarbone, che certamente non è uno che ha le pistole in mano, senti che cosa ne pensa, senti Sgarbone. Come cazzo fa un giudice a dire omicidio volontario? Come fa a dirlo se non contro un cittadino che si difende? Hai visto i limiti? Quello è stato provocato. Potevano essere armati, quello ha sparato per volontà, ha detto per intanto che è partito un colpo, perché è intimidito da una legge che è contro le vittime e a favore invece dei criminali. E ha fatto poco a uccidere uno solo. Doveva inseguirli e prendere calci nel culo. Sì, ma noi diciamo queste cose, Vittorio, ma poi nei processi, scusate, nei processi si finiscono quelli che sparano. Lui ha fatto il minimo che poteva fare, non voleva ucciderlo, ha sparato e ha sparato per difendere se stesso, la sua famiglia e i suoi beni. I ladri vadano per i cazzi loro, vadano a fare un bagno, non vadano a casa altrui, e il magistrato vada a cagare. Nel momento in cui entra a casa mia, io ho diritto di fare di lui quello che voglio. Stia a casa sua, io a casa sua non ci vado. Uno che vuole rubare merita di avere qualunque azione per difendere le cose tue. Sei a casa tua, mandiamo uno a casa della Costa Magna, poi siccome, poverino, lui non è armato, la violenta, la tortura, dice, beh, poverino, aveva le sue intenzioni. Difendersi è lecito, non ho detto uccidere, difendersi. Cosa vuol dire, avvocato, buongiorno? Una cosa, scusate. Io ho in mente quello che disse la mitologica contessa de Blanc: se qualcuno entra a casa mia, gli sparo alle palle. Ma se tu ci avessi un ladro, se, gli sparo nelle palle, mo te lo dico. Io, guarda, io ho la pistola da 10 anni, ma sono andata al poligono, ho imparato a sparare, mo sparo peggio di Calamity Jane, tu non sai come. Ah, veramente, sono bravissima, veramente, bravissima. Però io non li voglio ammazzare, però a sparargli nelle palle e nelle gambe, che così non si arrampicano più, questo sì. Ora, la tesi del signor Cattaneo, Parenzo, è quella, beh, adesso è tutta difesa naturalmente, no? È stato un incidente, il fucile non lo volevo usare, un'arma di difesa. Sentiamo questo ristoratore. Io naturalmente sono a fianco di questo ristoratore in tutto e per tutto. Adesso passerà un calvario giudiziario. Ma cosa vuol dire sono a fianco? Perché anche se fosse sceso, ascolta un attimo, anche fosse sceso da casa sua, come dice il vicino, con la doppietta in mano carica, qual è il problema? Qual è il punto? Anche se questo qua era lì che armeggiava, come fai a sapere che cosa vuole fare quel ladro dentro la tua abitazione, dentro il tuo negozio? Il problema è il clima da stadio che si crea attorno a questi casi. Ma non c'è nessun clima. Sì, perché se un politico come Salvini va lì e si fa il selfie, siamo tutti con il ristoratore. Ma che vuol dire? È ovvio, quello suoi, ha subito dai. Una rapina. Ora, no, è diventato un affare politico ormai. Bene, è un ottimo, affare politico. Ottimo, ogni volta ottimo. Che c'è uno che spara, c'è il ottimo. Selfie di Salvini. Io è questo che sto contestando. Ma ottimo un corno, perché c'è la magistratura che deve accertare se lui ha avuto in quella dinamica un eccesso. Io intanto sto. Se è sceso, eccesso. Dentro casa sua, eccesso. Le indagini nel cesso devono andare. Tutta carta straccia, nel cesso. Libero il ristoratore, libero. Ma dove vivi? Ma tu vivi? Ma vivi in Oman tu? Voglio ringraziare. Vai a vivere, vivi in Oman? In Oman, in Arabia Saudita, dove vivi? Voglio ringraziare i signori del circo. Dobbiamo ringraziare i signori del circo che a Genova pare che stiano ingaggiando una battaglia, colpi come al solito di striscioni, eccetera, eccetera, contro gli animalisti che vanno a rompere i coglioni al circo. Certo. A lavoratori, lavoratori del circo, allora. Di tutti i circhi italiani, non toccate i circhi italiani. Siamo qui bravo, a proteggervi certo. contro questa masnada bravo. Di imbecilli che vogliono impedire a lavoratori italiani di fare il loro mestiere. Chiaro? Vogliono impedire di mandare i miei figli al circo. Vabbè, roba sacrosanta. Io voglio portare i miei figli al circo e voglio anche che l'elefante si inchini. Ha chiamato Mario Capanna. L'elefante che ha si inchina. Ha chiamato Capanna. Vabbè. Aspetta, no, ha chiamato Capanna. Dopo la pubblicità lo mettiamo in onda. Dopo la pubblicità. Ed ora Donald Traffico. Faircam Air and Ocean. Spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Mario, che hai chiamato a fare? Mario, dimmi Mario, che hai chiamato a fare? Messaggio alle compagne e ai compagni che dalla mia casale in Umbria si stanno dirigendo verso il Sole 24 Ore. Mi dicono che da qualche ora il direttore Roberto Napoletano è asserragliato all'interno del giornale. Sì, il messaggio che io voglio... Asserragliato all'interno sta del nel suo... Allora io... meraviglioso, non deve muoversi da lì. Ma come? Non qualora lo sfiduciassero, atto gravissimo. Ma no, deve rimanere. Comunque, vabbè, voglio allora... insegnare qui. I Viet Cong, quando combattevano contro gli americani, vuoi dare un consiglio? Si asserragliavano consiglio del decalogo da seguire per il direttore napoletano: non muoversi più da quell'ufficio, perché qualora lui uscisse da Viale Montrosa Sole 24, non muoversi più, portarsi zaini con dentro un termos con del tè caldo, vestiti di ricambio, portare delle vettovaglie per resistere un mese all'interno del Sole 24 ore. Come resistere un mese? Dentro lo zaino, cioè un mese, non deve allontanarsi, se va via è fottuto. Questo è il messaggio che io voglio dare. Quando noi occupavamo l'università, formidabili quegli anni, entravamo con gli zaini, stavamo un mese, la polizia a certo punto gli tiravamo tutto dalle finestre, scappavano come conigli. Allora la cosa importante è che nello zaino, qui oltre effettivamente ai vestiti, c'è la polizia, quelle crisaglie che lui porta sempre, sì, ecco appunto quelle crisaglie che lui porta sempre, quelle cravatte, le cravatte non servono, serve cibo in quantità per resistere un mese, termos con del tè caldo, poi ci vogliono delle bottiglie di vetro con dentro possibilmente dell'alcol. Ma come poi dell'alcol? Come stoppino si può usare il Sole 24 ore, che brucia molto bene come giornale, si fa lo stoppino. Qualora arrivasse la polizia perché chiede lo sgombero del suo ufficio, dall'ufficio il direttore può lanciare agevolissimamente delle molotov dalla finestra. Vedrete che questa polizia scapperanno come conigli, scapperanno. Questo è il primo messaggio. Come no? La cosa molto importante: ma bottiglie armi pure di vetro, ma pure armi, è asserragliato, ma ovviamente petardi, raudi, in modo da, come dire, rauti, sì, fumogeni, rauti, in modo da contrastare. No, Pino Rauti è un altro. Sì, raudi, vero, sì, scusi, ho detto, scusi, dei raudi. Sì, sì, Pino, allora, Rauti è un altro che abbiamo all'epoca bastonato per bene a Bologna. Va bene. A quel punto le bottiglie, sì, di vetro sono fondamentali, perché con pochissimo alcol fanno un danno irreparabile. Quindi questo è il mio suggerimento: un mese dentro. Ma come stiamo fa? Arrivando con le compagne armi, e compagni. Beh, anche certamente delle cluster bomb sarebbero utilissime, ad esempio quelle bombe terribili che si possono lanciare. Cluster bomb fanno dei danni micidiali. Se lui si asserraglia all'interno del Fortino del Sole al terzo piano, sì, abbiamo, sì, la vittoria in mano e possiamo continuare a guidare questa fase difficile di transizione. Ma scusi, io sto arrivando a dare manforte al compagno napoletano. Ma scusi, ma lei non è dalla parte dei lavoratori di solito? Cioè... Sono anche dalla... Dipende, meraviglioso questo contrasto che c'è con i padroni, quindi io mi inserisco sempre quando c'è dialettica, conflitto, scontro di piazza, io là ci sono con il vitalizio, però, attenzione, con il vitalizio. Va bene ragazzi, andiamo, poi bisogna parlare di Napoli, di Salvini, di questa vergogna che è successa, di questa vergogna indicibile che è successa a Napoli. Vuoi dire della foto a Lodi anche? Cosa? La, la foto vergogna all'Odi? È la foto a Lodi per te è una vergogna. Salvini ha fatto il comizio, certo, a Napoli alla fine, ha fatto il comizio a Napoli. Ti fai la foto con uno che spara, voglio dire. Beh, allora qual è il problema? Non ho capito. Uno che spara, che è stato aggredito in casa, e Salvini fa quello che ha sempre fatto. È andato lì a dare solidarietà al ladro, sì, al ladro, all'oste. Va bene, fai selfie con chi ma spara. Ma va bene, certo, assolutamente. Ma va bene, ci sta. Claudio ci sta, da Lodi, fai ma lo fai, fa politica come fanno tutti, dai, Claudio da Lodi, dai, Claudio. Pronto? Dimmi, Claudio, dimmi. Eccomi qua, allora, buonasera innanzitutto a voi dai, due. Dai, dimmi, dai. Cruciani, io sono d'accordo quando dici che una persona... allora in questo caso vabbè, un estero, non so se era albanese o romeno, no, romeno. Quando una persona che muore non merita rispetto, no, non sono d'accordo io. Ma che cosa, io non ho detto che non merita rispetto, io ho detto che a me in fin dei conti, se devo andare a guardare dentro me stesso di questo signore romeno che non conosco, non so chi è, sì, i suoi familiari lo capisco che sono ovviamente, anche se trattavasi di un criminale, di un ladro, chiaramente sono distrutti dalla morte di questo, di questo signore. A me personalmente che questo qua sia morto non me ne frega nulla, ma perché sono onesto, ma come non frega nulla nemmeno a te? Ma ci vuole, allora io non voglio ma Claudio, perché a te invece frega di quello che è morto? Dimmi la verità, a te frega di quello che è morto? Ci frega dello stato di diritto, però io conosco bene quel posto lì perché abito vicino. Vabbè, ma che c'entra? Ok, ma non voglio difendere io adesso questa persona qua che è morta, però bisogna portare rispetto. Ma non c'entra niente il rispetto, io sono onesto con me stesso e dico che non me ne frega niente di quello che è morto, punto e basta. Ma perché... bisogna portare sempre rispetto. Ma non è che non me ne frega niente che gli sputo addosso, ho detto che non sono interessato, non provo nessuna commozione, è una morte durante un lavoro, cioè è una cosa che lui poteva... Ma come no, su lui lo poteva tranquillamente prevedere, lo poteva tranquillamente solamente prevedere quando tu vai in missione e puoi prevedere di crepare. Quando tu sei un ladro e ti inserisci, ti introduci dentro la casa, dentro un casale, dentro un negozio, dentro un bar, dentro una casa, ti puoi aspettare che uno prenda un mitra e te lo scarichi addosso. Mi dispiace, è così, basta. Beh, con questa roba qua, no, l'eccesso di legittima difesa, no, dentro la casa mia io posso difendermi. Cambiate anche col bazooka, se possiedo il bazooka e se lo posso usare. Ma non è Texas, è la logica, è la normalità, se dovrebbe essere. Arabia Saudita, Arabia Saudita. Chiedo scusa, Cruciale. Allora, premesso che il codice penale prevede l'eccesso di legittima difesa. Ma vabbè, l'eccesso di legittima difesa. Ma quando una persona muore, allora, indipendentemente che sia un santo. Vabbè, adesso mettiamoci a piangere, avanti, mettiamoci a piangere per il romeno. Mettiamoci tutti a piangere. Non sono ipocrita, non mi metto a piangere. Ho rispetto, ma che significa avere rispetto? Dire ho rispetto. Ma fai piangere il diritto, però. Ma non bisogna piangere per il rumeno. Fai piangere il diritto, tu, però. Lo stato di diritto. Chi è il signor diritto? Lo stato di diritto fai piangere. Ma chi è il signor diritto? Fai piangere lo stato di diritto. Esiste il signor diritto? Io non piango per il rumeno. Piangi per il diritto? Io non piango per il rumeno. Io piango perché state violando lo stato di diritto. State violando i principi. Fammi sentire Elide. Finalmente. Ma Parenzo sa quello che dice. Non è mai stata violata la sua proprietà, non è mai entrato nessuno a casa sua, evidentemente no. La signora Elide, stupendo, Elide, dimmi. Che mi devi dire? La nonnina col fucile. Cruciani, scusa, ma il suo Parenzo, ma cosa parla? Non è mai entrato nessuno a casa sua? A me mi sono entrati 4 volte. Ma tu hai un'arma a casa? No, assolutamente. Lo vedi che non è che è obbligatorio avere un'arma. Nessuno vuole imporre nulla alla signora Elide. Ma il ladro doveva starsene a casa sua e sarebbe qui con noi. Lei che ne pensa? La vostra trasmissione, esatto. Capito? Che lei che ne pensa dei signori immigrati? Ma guardi, a Pordenone non fanno assolutamente niente. Io lavoro. Cioè, in che senso? Che siete? Ciondolano lì? Ciondolano, Parenzo, sì, ciondolano. Con il telefono, ne ho uno qui di fronte, nero come la pece. Uno. Ed è qui che telefona, sembrano dei manager. Ma perché le dà fastidio che telefona? Anche lei sta telefonando e non fa un cazzo. E chiama l'800240024. Anche lei telefona qui. Cosa sta facendo lei adesso? Nulla sta facendo. Vada a preparare la minestra per suo marito, vada a preparare gli gnocchi, signora, anziché telefonare qui in diretta. Scusi, ma si figuri, io ho un branco qui davanti adesso. Tutti ma che neri. Fanno? Che fanno non questo branco? Niente, tutti vengono neri. In giro a guardare cosa facciamo niente. Noi. Telefonano, che fanno? Adesso arrivano le telecamere della nostra parte, adesso arrivano. C'è un branco di neri che telefona. Un branco di neri che telefona. Ma non ma vi guarda, rendete conto dove andremo Parenzo, a finire con questi neri che telefonano? Oggi alla Bocconi c'è dovuto un convegno. Ma lo mandi a quel paese. Lo mandi a quel paese. È una questione di cultura. Questi non ce la fanno, ha capito? Non ce la fanno. Non hanno la cultura. I neri che telefonano. Fermi lì. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. La Zanzara. Voglio vedervi in galera, dietro le sbarre, violentati dagli altri detenuti. E sotto sotto mi sa anche che vi piace questa cosa, In diretta dal cortile della statale di Milano. Un odore di gancia pazzesco. Podcast della Zanzara. Amico mio, siamo al top. Io la butto lì, provo un nuovo argomento che mi pare non abbiamo ancora scandagliato. Dopo aver cagato, la tazza del cesso bisogna chiuderla o lasciarla aperta? Ma questo è buono, direi, Questo è molto buono come argomento, caro David. Direi che è un argomento molto interessante. Tu, per esempio, cosa fai di fronte a questa opzione? Chiudi o lasci aperto? Io sinceramente non mi ricordo, non lo so. Qualche volta chiudo, Io sono una persona educata, quindi chiudi tutto. Cerco di Chiudi tutto, ma no? Certo, ma che domande sono? Ma non è una questione di sinistra o di destra, è una questione se sei educato o non sei educato. Ma che vuol dire? Ma come che vuol dire? Cosa vuol dire? Ma si può lasciare anche aperto, non è un problema se uno lascia aperto. Qual è il problema? Non ho capito. Hai fatto quello che devi fare dentro il cesso, lasci aperto. Non c'è bisogno di chiudere per forza, no? Regola 1, tiri l'acqua. Se vabbè, vuoi tutte le istruzioni, sì, tiri quello, l'acqua. Quello anch'io. Poi, se hai lo scovolino, teoricamente, per esempio, quando restano dovresti delle, anche pulire. Quando, sì, ma quando restano delle striscette, per esempio, delle striscette ecco, intorno. No? Ma secondo te, ai nostri editori, cioè a Confindustria, tu vai con lo scovolino. Interessa questo argomento? In questo momento, hanno altri problemi. Questo è stra-evidente. Proprio in questi minuti pare che si stia decidendo qualche cosa. Ci cacciano, no? No, non sia mai. Parenzo, hai dato delle teste di cazzo a quelli che ti mettono le multe. Questo è successo venerdì scorso, no, quando tu sei andato. Ho detto che ho rischiato. Sì. Ma risentiamo. Che la gente è incazzata. La gente è incazzata. No. Sì, senti. No, mi hanno avvisato che mi stavano portando via, che devo avere la macchina in divieto di sosta. Vi seguo al telefono. Ma chi se ne frega? Queste teste di cazzo, mi hanno detto che mi mettono la multa, sono sceso un attimo, perché altrimenti la paghi tu o napoletano, 150 euro di multa? La legalità di Parenzo, i vigili teste di cazzo, perché lo multano. Questa è la legalità di Parenzo. Se mette la macchina in posteggio vietato è giusto che lo multano. Che pirla. Parenzo, tu che sei sempre ligio alla legge, spari sentenze, il pervenista di sto cazzo, poi lascia la macchina in divieto di sosta. Sei un barbone. Te le do io le 2 euro per parcheggiare, barbone! Vabbè ragazzi, uno può avere anche un momento in cui sta lì, esatto, e bravo, si incazza, sì. Perché uno... No, perché ci sono gli avvoltoi che ti devono mettere la multa, Ma non era neanche messa male, nel senso che devi sapere che a Piazza Indipendenza alle volte è difficilissimo parcheggiare. Metto sempre nelle strisce blu e pago sempre i miei 3-4 euro, quello che devo, sempre. Lì, siccome quel giorno c'era tanta fretta, l'avevo messa non sulle strisce assolutamente, né nel posto disabili, cosa che non faccio mai, vicino a un bar, esattamente sotto il Sole 24 Ore, e ho detto alla mia sentinella che c'è lì, quello con cui prendo sempre il caffè, uno dei baristi simpaticissimi, dico, che c'è, qualora vengano schiavo. Sì, le mie sentinelle, no, che schiavo, un barista simpaticissimo, gli dico, guarda, qualora no, è uno che lavora al bar, vabbè, allora, gli dico, guarda, allora... qualora arrivassero gli sbirri, per gli cortesia, sbirri, chiamami, che sei abituato, scherzando, sei... No, qualora arrivasse il Ghisa, che a Milano il Ghisa lo si chiama, qualora arrivasse il Ghisa, fammi uno squillo che io scendo. Comunque, e magari hai dato alle 8 testa di cazzo a quelli che ti volevano mettere la multa, questa ma è la... non a quelli, dai. Comunque ragazzi, le voci di quelli che vogliono appendere Salvini, che volevano appendere Salvini a testa in giù, perché queste teste di cazzo delinquenti appoggiati dal sindaco De Magistris, che ha dato una copertura politica a gruppi di delinquenti, perché questa è la realtà, ha dato poi successivamente la colpa a Salvini. Ma la colpa a Salvini di che? Si possono dare a Salvini tutte le colpe del mondo, e il razzismo, le cose, tutto quello che volete, si può discutere di tutto, ma quello voleva semplicemente andare a fare un comizio a Napoli, provocatorio, anche fosse stato provocatorio. Allora qual è il problema? Non ho capito. Se lo lasciavate parlare, non gli davate questa grande enfasi. No, se era, cioè, ma lì un minimo di intelligenza, solo che a queste persone non interessa nulla, nemmeno questo. Volevano la protesta e ci sta, ma chi ha detto di no? Ma figurati. Questo è sbagliato, questa è la violenza. Ma scusa, ma che però senso? Se uno va a... Non gli interessa a queste persone, non interessa. La moglie di De Magistris c'era pure, che ha dato, cioè, che ha detto che la colpa è degli infiltrati. Ma quali infiltrati? Ma quali infiltrati di che cosa? No, però scusami, ti faccio un esempio. Ragazzi, se però... il Ku Klux Klan, se il Ku Klux Klan va a fare una manifestazione, stai paragonando Salvini al Ku Klux Klan. No, ho detto, stai paragonando Salvini al Ku Klux Klan. Ma no, aspetta, fammi finire il ragionamento. Se il Ku Klux Klan va a fare un comizio ad Harlem, è evidente che gli abitanti di Harlem magari un po' fanno qualche cagnana. Dai, no, mi pare evidente. Dai, non è la stessa mi sembra cosa. Evidente, no? Non è la stessa cosa. Se, dai, era se questi vanno vestiti di bianco e con le torce ad Harlem, è chiaro che i signori di Harlem magari qualche fischio lo fanno. Ora, un conto è il diritto alla protesta, un conto è scassare tutto come come è avvenuto lì. Ma De Magistris ha diritto di manifestare, così come la moglie. Non ha diritto e ha sbagliato a coprire i violenti, a dire giusta la manifestazione. Scusa, però tu sei contraddittorio. Anche se... sei contraddittorio, perché dici da una parte è come se il Ku Klux Klan fosse andato a dimostrare ad Harlem. Certo. Certo. Che, ovviamente... Ti faccio un altro esempio? Ti faccio un esempio. Dimmi. Se il signor Priebke, ora per fortuna morto, sempre troppo tardi, ma il signor Priebke, criminale nazista, si fosse avvicinato al ghetto di Roma a Portico d'Ottavia per una passeggiata, per mangiare un gelato, uno sganassone in faccia non gli avrebbe fatto male, esempio ridicolo. Ti sto dicendo che se un nazista come Priebke avesse fatto una passeggiata al ghetto, è chiaro che qualcuno l'avrebbe vista come una provocazione, un passato storico di Priebke. È un esempio che non ci sta. Non ci sta. È così. Le persone razziste e fasciste come Salvini non sono i benvenuti nella nostra terra e quindi li mettiamo a testa in giù, come la storia ci ha insegnato. Vabbè, questo... Stiamo qua per ribadire che la nostra città è diversa, che non lasceremo lo spazio a chi propugna politiche del genere di mettere piede a Napoli. Questa è una manifestazione democratica, l'antidemocratico è Salvini. Si è visto quanto è democratica, proprio, si è visto alla grande quanto è democratica, avete sfasciato mezza città, dai, su. Allora, dove andiamo, ragazzi? Andiamo. Ragazzi, molte telefonate sulla questione di Lodi, non c'è un cazzo da fare. E tutte, ragazzi, ditemi uno che sostiene la tesi, mandatemelo in onda. Non ve lo sto dicendo, non lo dobbiamo prendere per forza con le pinze. Mandatemi in onda una persona che sostiene che anche senza conoscere le cose del processo, non è così importante conoscere i dettagli, certo. Se quello l'ha rincorso, come dice Sgarbi, con la macchina... No, la rincorso a piedi per ammazzarle e per finirle è un altro discorso. Ditemi uno, presentatemi una persona che dice ha sbagliato a impugnare il fucile, a scendere da casa sotto al negozio, sotto al ristorante, a sparare, anche se poi lui adesso dice che c'è stata una colluttazione. Ma non mi interessa la tesi difensiva, è ininteressante in questo momento. La cosa interessante è che io dico che anche se fosse sceso col fucile carico per difendere la sua famiglia, i suoi nipoti, il suo posto, le cose che ha conquistato con anni di lavoro, di fatica, eccetera, ha tutto il diritto di sparare in bocca ai signori che stanno lì. E mi dispiace che quello è morto, anzi bocca. Non mi dispiace, in bocca, così, boom, così, via, finito, chiuso. Poi saltarci Marco sopra. Marco da Brescia, io non ci sto saltare saltando. Sopra, no, e no, farsi, no, no. Farsi un selfie e metterlo come manifesto in campagna elettorale. Vai, Marco, guarda, vai. Ragazzi miei, ormai alla barbarie siamo, alla barbarie. Vai Marco. Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Ti senti? Sì, ti sento. Sì, ciao. Ascolta, anch'io ho delle tabaccherie, anch'io mi sono trovato in parecchie situazioni difficili. Sì, la cosa sì. Che mi stupisce è che sembra che sia un caso raro, no? Quello che no, non è affatto un caso raro, lo sappiamo. Noi abbiamo seguito sempre questi casi. Stanno succedendo troppo pochi, secondo me, perché questi casi succedono centinaia di volte tutte le notti e raramente riescono ad arrivare alle forze dell'ordine prima dei titolari dell'azienda. E i titolari dell'azienda cosa cazzo devono fare? Tu sei armato? Certo. Ma che cosa hai? E più di una volta mi è capitato di dovermi trovare nella condizione di e adesso cosa cazzo faccio? Ma hai sparato qualche volta o no? Fortunatamente non ho mai dovuto sparare. Cosa hai fatto? Hai puntato l'arma? Sì, ce li avevo nel mirino, cazzo, però stavano scappando e ormai il danno era fatto. Ma sei stato tentato di sparare o no? Mai. Alla grande, perché quando ti distruggono l'attività e ti portano via veramente un pezzo di anima, perché lavorando, cazzo, certo, uno, ma assolutamente, insomma, quello, ma nel mirino la voglia, mette in dubbio, no, ma il punto è che bisogna, Marco, ma hai fatto bene a chiamare per raccontare questa cosa, perché sembra che siamo tutti pistoleri, il mondo è impazzito, non c'è nessuno che vuole fare il pistolero. Marco che ha la pistola e in quel momento si è fermato. Il problema è che bisogna considerare, scusami un attimo Marco, adesso ti ridò subito la parola. Il problema fondamentale è quello che bisogna considerare come bene inviolabile e sacro non solo le vite umane, cosa che è normale pensare, no? Ma anche i beni che sono stati accumulati con gli anni di fatica, anche quella è una cosa preziosa. Ma certo. Dai Marco, che volevi dire? Scherzi. Che volevi dire, Marco? È un pezzo della mia vita. La cosa che mi domando io, sono 20 anni che mancano le carceri, sono 20 anni che stanno dicendo che non c'è posto e ste cazzo di carceri non le fanno. Questi qua arrivano qui perché la maggior parte, purtroppo, però è da dire, sono rumeni, perché di là ce ne sono liberati, ce li stanno mandando qua a noi, e fanno quel cazzo che vogliono, perché male che vada si fanno una notte dentro. Ma scusate, c'è stato un magistrato di Bologna che qualche mese fa ha fatto un'intervista, anzi qualche settimana fa, dicendo che ovviamente i ladri preferiscono stare in galera in Italia, o comunque prendere pena in Italia, perché sanno benissimo che rispetto ad altri paesi escono prima e ci sono pene. Fermo alla grande. È così. E uno cos'è che deve fare? Abbraccio un ospite qui. Marco, dimmi quante pistole hai, tu? Io sì, ne ho qualcuno, però non è il numero delle pistole. Il problema è che io devo già partire con l'idea da casa di dire: cazzo, cosa faccio? Vado, l'ultima volta me ne sono trovati 7 davanti, sì, che hanno tirato di tutto, mazze, martelli, un disastro. Fortunatamente sono scappati prima e non ho dovuto scendere dalla macchina, sennò saltavo fuori un disastro. Bene, grazie, ciao. Mi Marco. Dentro 20 anni. Ciao Marco, bello, Vito, ciao. Palermo, vai Vito. Ciao. Vito. Ciao, buonasera, buonasera Cruciani. Dimmi, ciao. Vito, io se fossi presidente del Consiglio italiano, il signor Cattaneo lo convocherei al Quirinale, gli darei una medaglia a valor civile per aver contribuito a levare da mezzo un delinquente dal territorio italiano. Questa è un'opinione. E lo ringrazierei al nome del popolo italiano. È un'opinione molto forte, ma che è condivisa dal 90% delle persone con cui ho parlato. È così, ragazzi, c'è poco da fare. È così. Cioè, una persona normale pensa. Un deputato qua. Ma non parlate tra di voi adesso. Fermi, pubblicità, poi torniamo. Pubblicità. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ma il ladro doveva starsene a casa sua e sarebbe qui con noi ad ascoltare la vostra trasmissione, hai capito? Ma guardi, a Pordenone non fanno assolutamente niente. Ne ho uno qui di fronte, nero come la pece, ed è qui che telefona. Io ho un branco qui davanti adesso, tutti neri. Non fa niente, niente. Vengono in giro a guardare cosa facciamo noi. Allora, David, insieme a te mi sembra che ci sia qua. Alessandra Mussolini, sì, sì. Buonasera, buonasera. Ciao, oh, come va? Bene, eccoci, vicini, bene. Vicini, siamo. Vicini, vicini. Quanto eh? Tempo, quanto devo tempo. Devo dire che sembra una signora molto elegante, molto bella e molto simpatica. Una signora Mussolini accanto. Sempre. La signora Mussolini accanto a Parenzo. Accanto a Parenzo. Una che si chiama Mussolini accanto a Parenzo, incredibile. Ma che c'entra? Ma che è una donna che lotta per i diritti delle donne. Vabbè, perché lei è sempre stata poi a favore dei diritti delle donne. Vabbè, allora certo, ma non so se ti ricordi che io sono delle stata posizioni, scusa, che sono anche di sinistra, secondo me. Bravo. Perché. Scusami, ma di sinistra, di buon senso. Ma tu te lo sai, Cruciani, ti sei dimenticato che io sono stata relatrice della legge contro la violenza sessuale, che era un atto contro la morale, l'abbiamo fatto diventare contro la persona, con tutte le donne di sinistra, più di sinistra, perché sono più. Sì, vabbè, ma quello mi pare una cosa normale, essere contro la violenza sessuale, cioè mi stupirebbe no, il contrario. Non era normale, non credere, non era normale quando l'abbiamo fatto. Ma che fu era quella cosa là che poi qualcuno quindi contestò, che andò. Jeans. Sì, facemmo jeans, la protesta contro perché jeans, dicevano che se il jeans era aderente tu non potevi, dovevi agevolare l'atto. Ma che stiamo scherzando? Ma tu sai che ha una pizzeria la signora Mussolini? Lo sapevi? Lo sai che io mi sento. Fa la pizza la domenica? Ma dove? Io sono commerciante, è bello. Ma io dove? Ho con paura chi? La sera quando sto in pizzeria è pure buio. Ma la pistola ce sono l'hai? Sono a Piazza. No, per carità, io gli butto una pizza in faccia calda, bollente. Una pizza fritta. No, ma a Piazza Bologna, la domenica, va a fare la pizza nella sua pizzeria. Certo, a Piazza Bologna, via Stamira. Senti, io la sera, dato che la strada purtroppo è poco illuminata, perché adesso a Roma la novità del comune, stanno mettendo i LED. Sì. Sembra un frigorifero di stare. Cioè, il LED fa solo il cono di luce, il resto è tutto buio. Allora lì c'è da aver paura. Ma sì, io voglio chiederti una cosa. È ridicolo. Senti, io voglio chiederti una cosa, ma a proposito di sparare, no? Si parla in queste ore di questa vicenda del ristoratore di Lodi. Ma tu sei sicura di non avere nessun'arma in casa, no? A Roma, niente, nessun'arma. No, in no, casa no, non niente. Avete armi. Ma perché armi, no? Cioè, no, ma tu spareresti a un ladro che entra dentro casa tua, spareresti o no? Allora, io ti dico, io sono contraria ad avere le armi, ad avere pistole, ad avere, figurati. Perché? mio padre, il marito di mia madre, ha una mazza da baseball tosta, bella, grossa, vicino al letto la sera. Non so perché ce l'ha questa mazza da baseball. E devo dire, perché loro stanno al piano terra, però gli fa, va a letto, se la guarda, la tocca, fa. La mazza. La mazza da baseball. Sì, mentre io sono contraria, ma non solo capisco, giustifico chi ti entra in casa, sono in quattro, come è successo col ristoratore, lui era da solo, quindi già sproporzione, e ha reagito come ha reagito. Quindi non deve essere neanche indagato. Assolutamente, ma come? Omicidio volontario. Ma, è morto, però. Ma cosa c'entra? Lui è stato attaccato, sono entrati nella sua proprietà. Ha ragione, non è successo che da un certo punto tu prendi e spari una persona, questi ti attaccano. Ha ragione, ha ragione lei. Dai, questo, in quattro addirittura persone. Omicidio volontario, no, dai, quattro. E dico una cosa, se ti entrano dentro casa, tu hai paura perché sai come reagiscono, perché sono, compiono gesti efferati, ormai ti sei vizio, l'hai visto dagli anziani come li riducono. Certo. E dunque allora, puoi fare qualsiasi cosa dentro casa. Dentro casa tu puoi, puoi reagire in qualsiasi modo, mi pare evidente. Tu no? reagisci perché se sei in quattro, tu sei da solo, reagisci per difendere la tua famiglia e la tua proprietà. Ma anche se uno è da solo, anche se c'è un... Va cambiato il codice, va cambiata la legge. Ma certo, va cambiata, tra l'altro c'è pure una proposta dei cittadini che la vogliono cambiare per renderla meno... Cioè adesso questo poveraccio che ha difeso, che aveva già subito una rapina, omicidio volontario, ma sai quanti anni gli danno? 20 anni. Ma no, ma che ne sai? Detto? Guarda che i poveracci vanno in galera, i delinquenti non ci vanno, questo te lo dico io. Ma io voglio capire una cosa, hai pensieri... No, Salvini a Napoli. Aspetta, hai pensieri nei confronti... Ecco, De Magistris dovrebbe essere indagato per omicidio volontario. Come dopo quello che ha detto. Addirittura, onorevole, lei c'ha le immunità. Sto matto. Ma perché omicidio volontario? Eversivo. Pazzo! Quello ha fomentato e citato tutti i no global, sono arrivati, hanno sfondato la città, pagasse coi suoi soldi De Magistris. Ma come lui ha lui è un criminale, lui certo, ma come certo lui, lo può dire lei, certo, io non ho l'immunità parlamentare. Lui ha fomentato, lui ha praticamente reso Napoli in mano ai no global e in mano ai centri sociali. Napoli, tu vedi, sono tutti edifici occupati. Bravo De Magistris. Ma dovrebbe essere commissariata Napoli, dovrebbe essere secondo te dal Ministero degli Interni dopo quello che è successo? Che commissariata, si deve dimettere direttamente, no? Commissariata, no, come il commissario deve essere indagato per cosa? Lui non è all'odio. Guarda, tentativo di omicidio, alla tentativo alla di assalto, violenza. Istigazione alla violenza. Ma lui come si permette? Ma lui ha detto solo faccio una manifestazione, aderisco alla manifestazione. Ma aderisco, lui è legittimo fischiare Salvini. De Magistris ha creato il caso. Quante volte io ho fatto manifestazioni alla mostra Oltremare? E che significa che se un edificio è in partecipazione del comune, tu non glielo dai alla gente? No, un ma partito. Al di là di questo, lui ha detto: scusi, onorevole Mussolini, lui ha detto una cosa: ha detto, bravo, sono dalla parte dei centri sociali. Questo ha detto, ha dato una copertura politica ai centri sociali. Diciamo la verità, le bravo, cose stanno così. Dai, ha dato una copertura. E lo voleva Cruciani. No, aspetta, Cruciani c'ha ragione perché non solo ha dato, una copertura, ma ha aperto la città ai violenti. Ma no, ma quelli ci sarebbero, hanno ci sono comunque tutto. Quelli i poveri cittadini, diceva una signora, una famiglia è dovuta rimanere in mezzo alla strada, non sapeva più dove andarsi a buttare per questi violenti. Pagasse lui tutto di tasca quello sua che i danni fatti al comune, certo, di pure magistrato era, ex magistrato, era magistrato. Ex magistrato. Brutto, ma è brutto, che brutto imbecille, che ha detto brutto imbecille, pazzo, è una brutta però è un bell'uomo, è una brutta persona, pure la moglie, pure la moglie è andata, persona. Pure la moglie è andata alla la manifestazione. Moglie non la conosco. È andata alla manifestazione. Le lì donne dice... le difendo sempre. Vabbè, sempre, pure se le sono criminali. Pure se sono criminali. È brutto. Vabbè, brutto. Il marito è brutto. Ma è un bell'uomo. È un bell'uomo. Perché non è brutto. Ma perché Napoli. Ma fisicamente è un bell'uomo comunque. Ma chi se ne frega di De Magistris quanto è brutto. E perché Napoli è una città importante, è una città in vabbè, genere accogliente. Non puoi eccitare gli animi a far andare tutta siamo questa gentaglia. Ma lei è tifosa del Napoli, signor Mussolini? E lei è tifosa del Napoli? Guarda, io ho mio figlio che gioca nella Lazio. Sì. Giocava nella Roma, dove gioca mio figlio io divento. Vabbè, io ma lei, quindi lei oggi è della Roma, lei? Un po' della Roma, un po' della Lazio. Oggi è della Lazio. Ah, ho capito. Io attacco il cappello là dove gioca mio figlio. Vabbè, ma se, un po' sarà devo del Napoli, dire la no? verità. Però beh, a me c'è. Quando mi attaccano Napoli divento una ho capito, bestia. Ma non ecco c'è un po' di vittimismo? Si sa fatto. Di che? Nel calcio ma quando mai? C'è un po' di piagnisteo? No, allora che la Juventus sono dei ladri, allora calcio è bello. Oddio, la Juventus basta con questa Juventus, vince sempre i campionati, si fermasse un giro. Ma coi rigori, dice, coi rigori, coi rigori un po'. Sentire... Ma rubano o vincono? Vincono troppo. Uno quando si ma vincono un po' truffando o no? Vincono un po' giocare gli altri. Ma vincono un po' truffando o no? No, truffando, ma adesso non è, non sono come De Magistris. No, no, però la Juve, mamma mia, vince sempre, basta. Senta, ma bello, bello figo, gli hanno impedito ultimamente di fare dei concerti al signor Bello Figo. Se lo ricorda, sì, no? Se lo ricorda, Bello, Bello se lo ricorda, Figo, Bello signor Figo, Bello Figo. Bello Figo è un grandissimo figlio provocatore. Di... È un grandissimo Androcchia, stava per dire. Ma è italiano, però. Ma non lo dico più. L'ho vista negli occhi proprio. È italiano, però. È un grandissimo però, troll. È italianissimo. Ma che è italiano? Quello non è italiano. Non sa parlare manco la sua lingua. No, ma quello è italianissimo. Nato in Italia, è italiano proprio. Allora fa finta, è un truffatore. No, ma è un truffatore. Effettivamente è un rapper. Ma che rapper? Che scherza rapper, sul wifi. Scusami, i rapper sì. Sanno cantare, quello manco quello fa. Non è intonato, è brutto con quella chierica bianca in testa e tra le altre cose sì. non dice niente di che, insulta gli italiani, quindi... No, meglio, ma tra l'altro dice i suoi concerti vengono vietati spesso, eh? Cioè, fanno bene a vietare. Come fanno bene? Fanno gli assalti ai concerti, va diritto già, anche lui. Non di... voglio fare come De Magistris, vedi che non sto sbagliando. Vabbè, ha detto che non fanno bene, fanno fare come ho capito, lui. Però dice che fanno bene a vietare i concerti. Possono contestare. Ma scusatemi, se uno dice fregnacce quando canta, vabbè, che e insulta quello? Le donne, insulta le famiglie. Le donne è pesante, sulle donne è pesante. Vada a rubare, le voglio fare, ma su, ma per carità. Ma gli va tolta la cittadinanza italiana? Ma quella bocca che c'ha. Gli va tolta la cittadinanza? Sì, è cittadino italiano. Ma non è vero, a me mi hanno detto che gli era data Renzi, per finta. Ma che Renzi? Sì, mi hanno detto che c'è di mezzo Renzi e la Boschi, Meretta, è la coppia diabolica, dai. Si arrenda, so è ghanese, è di origine ghanese, ma è italiano ormai da tanti anni. È italiano. Italiano come Alessandra Mussolini. Esatto, uguale, sì, è italiano uguale, come lei. Io non so. Uguale. Sì. No, uguale. Ma quando mai? Italianissimo. Senti, ma lei prenderebbe una. Berlusconi che fine ha fatto? Boh, ma che ne so, Berlusconi. No. Che? Ma di che parli? No, voglio sapere le prime. Lei le piace Berlusconi, Salvini, chi è il leader del centrodestra? Il leader del centrodestra non c'è adesso, non c'è Berlusconi ancora. Ah, quindi c'è Berlusconi. Ognuno c'è il suo. Ma per capire, sai. Ma scusate, non si può fare che ognuno ha il suo leader, no. Se lo tiene stretto, no, ecco perché può. Io spero che ci sia una legge proporzionale, almeno non dobbiamo fare chi sei tu, chi sono. Ma tanto a lei che gli frega, sta in Europa, non fa niente. Ciao Mussolini, non fa niente in Europa, lei sta là a non fare niente, su, cioè è bellissimo stare in Europa. Non si fa niente. Quanto sei strano, anche perché non lo si sai, fa niente lì al Parlamento europeo, non c'è, non fai... si fa nulla, dai, su, non si fa niente, non si fa niente, è un luogo. Senti, fai una radio di servizio, sì, no, sì, porco Giuda, senti, sì. Fai una radio no, di servizio. No, io non faccio la radio di servizio, no. Pensa, lo sa... E fammi sì. Dire una cosa, cosa, tu non su lo che sai, cosa, su io che sono relatrice. Ah, beh, allora. Ma non mi fa parlare. No, ma dillo. Mi incalzi. Su che cosa? Io sono relatrice ombra, qua e sono tutti cosa? Strani, si di chiamano che? Shadow, lui lo sì. Sa, Shadow. Parenzo lo sa, anch'io ma lo non so. Lo sai, fatelo dire da Parenzo. Shadow. Sono Shadow. Di che cosa? Sull'immigrazione, su allora. Dublino e sulle... È importantissimo. Ma non si guarda, fa niente in Europa, parliccia. è un Bengodi pazzesco, lei lo sa benissimo, è un Bengodi pazzesco, a parte i viaggi che sono faticosi, a parte quello, è allora, un Bengodi. Guarda i viaggi, bravo. Senti, oggi stavo parlando di questo, porca miseria, loro vogliono mantenere la sede di Strasburgo, inutile! I francesi, sono i francesi. I francesi, allora garantiscimi che io posso venire a Strasburgo senza prendere quattro voli e tre auto. È una fatica tremenda. Per 30.000 euro. È una rottura di palle pazzesca. Per 30.000 euro al mese. Però la sua amica Marie Le Pen, lei che vuole mantenere Strasburgo comunque. Posso dire una cosa? Sono ossessionati dalla Le Pen. Le piace un po' troppo. Chi è la Le Pen italiana? La Marine italiana non c'è, non c'è. Non c'è. La Meloni. Lei prenderebbe, scusi un attimo, lei prenderebbe. prenderebbe un rom come Colf? Una rom come Colf? Ah sì, Sabaeba, allora chiamala. Posso dirti la verità, non mi attaccare come razzista, posso dirti quello che penso sì, e la verità sì, quello che mi è successo sì. A me. Che è successo? Allora a un certo punto io avevo bisogno di una collaborazione domestica sì, beh, e ho certo. Detto non mi far avere pregiudizi E c'era questa persona di, che non è di etnie, come hai detto te. Romena. Non esageriamo. No. Allora, tra l'altro, l'ho fatto pure, ho detto, guarda che tu c'hai l'occhio giallo, vatti a fare curare, aveva l'ittero. Allora, io pensavo che lei fosse nei miei confronti riconoscente. No. Allora, a un certo punto, la giornata c'era una festività. Sì. Io esco con la mia famiglia alle 8. 8 e 20 arrivano i ladri. Sì. Chi è stato? Non lo so chi è stato. Lei. No, dico chi è stato. No, non lo chiediamo a lei. È stato? Ma lei. Se io esco alle 8. No, io non dico niente. E come non dico niente? Sta dicendo io lei. Io non dico niente. Sto dicendo. Ma è stata cacciata o no? Alle 20 è stata cacciata o no? E lei, vedi, che, vedi come sono brava, sono troppo buona io. Lei ha detto, signora, io me ne vado perché ho avuto paura. E io ho detto, vattene, vattene, bella, vai. Cioè lei ha il sospetto che sia stata lei ad aprire la porta di casa. No, non ho il sospetto di niente. Io però, voglio dire, la parola è, la domanda è questa. Prenderebbe una rom come colf? Però? Prenderebbe una colf come rom? No. Moglie. Mai. Mai una rom, mai una rom. Moglie, buoi dei paesi tuoi, manco sposatevi con le persone normali. Cioè, con le persone normali in che senso? Gli italiani devono sposarsi con gli italiani? Gli italiani devono stare con gli italiani, non ho capito. Non dico questo, cioè, meglio, conto, italiani, non è vero, cioè, non è vero. Senti, mia madre, la società multirazziale ti fa schifo, Alessandra. La società multirazziale ti fa schifo. Ma dillo. Che società multirazziale, che mia madre è sposata da 40 anni con Majid Tamiz, medico persiano, che io adoro. Io il multirazziale ce l'ho a casa. Quindi a me, Cruciani, persiano, che mi devi parlare? No, è una domanda che ti quindi faccio. Altro, però la Rom no. La Rom no. Lei non è mai stata fidanzata con la Rom, solo con italiani. Prenderei, ma la Roma non la prenderei perché non fanno le pulizie bene. No, come non fanno, sono sporchi, sono sporchi. Sono sporchi. Sono sporchi, Roma o no? Vedi quello che fa. Eh? Ma non è che sono sporchi, non hanno il senso della pulizia. Vedi come lasciano le loro cose, come trattano le donne, come trattano le donne, bambini. No, le donne li fanno andare a chiedere sono le regine della casa. Vabbè, sono, io non lo prenderei. Sono inconciliabili, sono inconciliabili. Mi dovete accusare. No. Sono inconciliabili con la civiltà o no, secondo lei? Sono inconciliabili con la civiltà, con la convivenza, con l'Italia, secondo lei? Sono incompatibili. Borderline. Ma è borderline, ma dica quello che pensa, non si trattenga. Si sa che lei, secondo me, lei pensa. Ma è che mi trattengo? Non io lo so, mi trattengo? Cioè, no, se le passa perché, accanto, scusa, se loro, le passa accanto scusami, un rom. Scusami, ma perché? No, se mi passa accanto un rom, la prima cosa, volta, la prima cosa che fai? Sempre sulla. Senti, allora, vogliamo dire proprio le verità? Allora, diciamo. Io una volta stavo camminando, è venuto questa qua con la bambina addormentata. Dormono sempre, bisogna sapere perché dormono. Le bambine li drogano, li drogano, li ubriacano. Ma certo, allora a un certo punto mi ha chiesto, ma dai, certo. Su, certo, le droga, droga, come sono per seduti, dormono sempre. E dormono, un cane che dorme? Ma sì, dorme, dai. Dormono per niente, ma che cacchio dici, Davide? Ma scusa, allora vabbè, allora a un certo punto. Ma come droga? Quell'altro dice, vabbè, come ma allora gli trovi, danno la birra. Allora? Per ai bambini pure. Ai lo bambini, so, hanno fatto la cosa. Se vuoi fare il bravo, vabbè, non è vero, ti dico io che lo fanno. Vabbè. Allora a un certo punto io gli ho dato dei soldi, chiedevo i soldi, gli ho dato i soldi. Oh! Non ha sputato, si è buttata addosso perché mi voleva rubare nella borsa. Ma sono tremendi, sono tutti ladri? Sono tutti ladri, Rom? Siamo Mussolini? Sì. Generalizza, allora, detto. Risposta, lei generalizza. Noi siamo alla radio, qui non si sente la risposta. Stai zitto, fammelo dire allora? In silenzio così non mi sentono. Sì. La maggior parte sì. La maggior parte sono tutti ladri. Perché parla piano? Perché così non mi sente 99%. Quanti sono? Ma quando mai? 99% o 100%. Quanti rubano di loro? Quanti? L'89%. Ma perché parla così piano? È la radio. Ma che radio? Così non mi sente nessuno. Quanti rubano? Scusi, non ho capito. Boh, 89 ha detto. 89, però adesso sono in crescita. Ma perché lo dice piano? Questo non capisco io. Perché mi sente solo Cruciani, mi senti te, gli altri non mi sentono. Cioè, se ti passa accanto una Roma, tu la prima cosa che fai ti guardi il portafoglio, ti scansi subito. No, gli dai la mano, gli dai la carità. Ma la carità mi hanno sputato. Come l'hanno sputato? Ah, non t'ho detto. Ho capito, Davide, l'hanno sputato, l'ha capita una volta. Senti, tu non segui la trasmissione. No, la sto seguendo, capito? Allora ti sarà capitato una volta che le hanno sputato. A me basta questo. Allora, perché tanta gente ogni tanto chiama? Perché ogni tanto la gente chiama qui e dice rimpiango Mussolini, secondo te, Alessandra? Perché? Cioè, molta gente ci chiama e dice: io, cavolo, rimpiango. Perché? Ma la vogliamo buttare in caciara? No, che caciara? Io dico perché ogni, tanto la gente, guarda, molta gente chiama e dice: Renzi, rimpiango Mussolini. Dopo la Boschi, dopo Renzi, dopo la Boschi, rubano nelle banche, i risparmiatori non hanno più la lira. Prima, evidente, io non lo so, non c'ero, non c'eri, ero però, quel periodo. Però c'era, magari si sentivano che. Cavolo, non si sentivano. C'era più ordine, diciamo, no? Zitto! Fammi parlare! Si sentivano più sicuri. Ma perché parla piano? Zitto, fammi parlare! Diciamolo, com'è? Si sentivano più sicuri e potevano lasciare le porte aperte che non entrava nessuno. Ma perché lo dice piano? Ma non capisco! Fai avere la tonalità che voglio o mi devi imporre la tonalità tua? Ho capito! Lo dice sussurrando come se, perché capisce anche lei che è una roba incredibile. Si è capito. Si sentivano più sicuri e lasciavano le porte aperte. I treni arrivavano in orario. Sì, l'ho detto io. Anche i treni, anche quelli regionali. Ma anche perché non di quelli regionali? Si stava meglio quando si stava peggio. Cioè, con questo escamotage di dirlo sottovoce. Ma tu che vuoi? Io sono tranquilla, anche perché mi dicono tu urli. Allora, abbiamo finito. Sono moderata. Una sola domanda dopo la pubblicità. Che c'è, Cruciano? Una sola domanda dopo la pubblicità. Quale? Poi te lo dico. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. La Zanzara. Cruciani, fare subito il monumento al signore di Lodi che ha sparato al ladro, perché se passa il messaggio che questi bastardi possano rimanere impuniti davanti a tutto solo perché la legge non ci tutela, è finita. Quindi sparare a vista, mezzo metro dentro la proprietà, tem, sparato, morto, uno stronzo in meno, e basta con questo buonismo, basta! Ecco, voglio chiedere per chiudere alla signora Mussolini se è vero, se anche lei pensa che quello che è cioè, prova della pietà per quello morto, per quel romeno morto a Lodi, oppure non mi faccia l'ipocrite, perché pietà non è che si può dire, uno sempre quando muore una persona, e certo non è che puoi dire sono contenta, però io provo pietà per gente che si deve indebitare, che deve pagare il risarcimento magari alla famiglia del ladro morto. Quello morto, poveraccio, però se non stava là non veniva ammazzato. Cioè uno di meno, ci siamo liberati di un ladro oppure no? No, ci siamo liberati di un ladro, no, questo non dovrebbe accadere, ma se accade la gente si deve dire. Senti, Cruciani, tu volevi il ladro morto o morto il ristoratore? Non provo nessun sentimento nei confronti di quello morto, non sono ipocrita, nei confronti di quello morto non provo nessun sentimento, ho detto che se l'è andato a cercare, quando uno esce da casa e va a rubare, bravo. Uno ci può stare, cioè purtroppo devi mettere a rischio questo, ma quando entro coi bastoni ti ammazzano di botte. Ma quello pure se non c'è la vita. È un'aggressione. Oh, questo c'aveva un fucile, dichiarato, fatto, ha preso e l'ha ammazzato. Senta, se le dico un cognome, Martinelli, cosa le ricorda, signor Martinelli? Signor Martinelli, quello dei 5 Stelle, che scherzetto che le ha combinato, signor Martinelli. Mi stava raccontando una cosa in fuori onda, che si può dire forse, no? Sì, su che cosa? Oltre al danno, la beffa. Dillo. Che è successo? Cioè, Martinelli ha anche querelato. Ti ricordi che ho difeso lo Mussolini? Ti ricordi che in quella puntata l'ho difeso perché è stata un'aggressione bastarda. Dillo. E addirittura ha querelato la Mussolini. Sì. Cioè, Martinelli, non la Mussolini. Martinelli ha querelato la Mussolini. Perché gli ha detto stronzo per le parolacce, perché lei gli ha detto che è uno stronzo. Sì, dicendo che io l'avrei interrotto durante la trasmissione. L'ho interrotto senza prima che ci sia stata qualche cosa, come una pazza, una piglia interrompe e datelo a qualcuno. Dello stronzo? Sì, gli ha dato dello stronzo. Ma se sentito, stronzo. Stronzo ha fatto il dito medio. Secondo me ha fatto benissimo. Secondo me la Mussolini ha fatto bene. Io l'ho difesa. Oddio, adesso io ho questa cosa. Pensa, mi hai fatto ricordare questa cosa. Adesso devo ritornare a pensare a questo grande problema. Perché mi ha querelato. Non so quanto mi ha chiesto. Ma quello 50.000 euro. Addirittura. 50.000 euro. Ma come sai cosa sta facendo? Questa è la radio. Come ha fatto? Peccato che non mi vedi. Sai cosa ha fatto? Col braccio ti è così. Niente, non ho fatto niente. Sì, non sì, ho fatto così. Un dito medio. Non ho fatto un dito medio. Non ho fatto un dito medio. Sì, sì, il dito medio l'ho fatto. Il dito medio l'ho fatto. Lo senti? Sì, lo senti? Tiè, che cos'è? Tiè, Martinelli, tiè, tiè. Niente, è la reazione alla denuncia. Via. La reazione alla denuncia. Ti rendi conto? Sì, vabbè, ma ragazzi, ma ognuno fa quello che vuole. Quello ha fatto così, eccetera. È una vergogna, però. Ma gli ha fatto un attacco. Io sai che non è che posso ma tu stai in trasmissione, però, noi stiamo parlando, fai un attacco così basso. Ma poi, scusa una cosa, mi chiedi soldi? A Peragottaro, brutto pure tu. Ma chiedi se vuole fare i soldi? Ha chiesto quanto gli è? 50.000 euro? E dei 5 Stelle? Ma non è vero, a me mi hanno detto i 5 Stelle oggi. È un blogger lui. Ma che blogger? Sì, è uno vicino. Cosa? Che è successo? Detto blogger, blogger zitto, ho detto blogger. Blogger. Vabbè, dai. Sì. Allora, su. A un certo punto mi hanno detto 5 sì. Stelle che non è dei 5 Stelle, non no. Si sa chi sia, no. Io non lo conosco, voi lo conoscete. È un blogger. Ma sì, ma era vicino ai 5 Stelle, adesso è un po' esterno ai 5 Stelle. Comunque, il fatto è che lei, quando sente parlare di questa storia di suo marito, giustamente si ribella. Cioè, perché ovviamente le due persone, le due cose sono. Perché non c'entra nulla con la sua attività politica. Scusate. Non fate i cose. Io ho avuto quella reazione, sì. Diciamo contenuta, perché se anche fosse troppo stato poco ha fatto per, lo sai perché? Perché? Perché gli è andata bene. Perché se fosse stato vicino a me come vicino a me Davide, sì. Io che non l'ho mai fatto. Pensa, non l'ho mai fatto. Sì. Gli avrei messo le mani addosso. Certo, dai, bene, però, questo. Pesante, bello a sfogo. Detto questo, ciao Cruciani. Ciao. Che ciao. Fai adesso? Vai ciao. A mangiare? Che no, fai? Ma ancora devo fare tutta la trasmissione. Dai, devo fare tutta la trasmissione. Ancora se fa la trasmissione. Ma sì. E che devo fare? Io devo adesso. Lavorare. No, ma che abbiamo vabbè, fatto? Vabbè, senti un bacione. Ciao. Torni, beh, io sono qui anche domani. Magari andiamo a cena. Ma ragazzi, ma che siete matti? Stiamo in diretta. E siete impazziti, ciao. No, ho detto che magari domani sera vado a cena. Ah, vai a cena con la Mussolini, vai. Domani sera, vediamo. Allora, Massimo da Roma, vai Massimo. Buonasera. Dimmi Massimo, dimmi. Allora, ti volevo dire che sei un grandissimo imbecille. Perché uno che dice che quel signore ha avuto un incidente sul lavoro, sì, essendo sì. Un incidente sul lavoro a te non te ne frega un cazzo. Sì, sì. Tu sei un perfetto imbecille. Ma imbecille okay? Sarai tu innanzitutto, Massimo. Imbecille no, sarai tu. Tu sei imbecille. Cioè, io dico quello che penso. Dovresti anche sapere che esiste l'istigazione a delinquere. E beh, che c'entra l'istigazione a delinquere? Mica ho istigato. L'istigazione a delinquere è quando tu dici entri in casa mia e io ti sparo. La legge in Italia non lo permette. Aspetta, questa ti sento male, Massimo. Ti sento male. Mettiti bene. Levati qualche cosa che c'hai. Non so cosa c'hai perché ti sentivo benissimo prima e poi male. Ci sei adesso? Ci sono. Ci sei Massimo. Allora, innanzitutto istigazione a delinquere e denunciami per istigazione a delinquere. Denunciami per istigazione a delinquere. È mia intenzione farlo. Bene, bene, vai a chi entra dentro casa mia. L'ho ripetuto pure ieri sera alla 7. Chi entra dentro casa mia e che entra casa mia in generale e sì. Non dentro casa mia, proprio dentro casa mia, perché io non sparo perché non ho una pistola e non ho intenzione di prenderla. È giusto che tu gli spari. È giusto sparare in perfetto. Bocca, anche di schiena, perfetto. Se uno sta di schiena io sparo perché non so cosa hai in mano ma istigazione a delinquere ce l'hai tu nel cervello, è il tuo cervello l'istigazione a delinquere. Tu puoi proteggere la tua vita, non la pelliccia di tua moglie, imbecille. E invece io voglio proteggere, non vale una vita. Invece io voglio proteggere quello che ho conquistato e che ho comprato con i miei soldi, con i miei averi, con i miei beni. Chiaro? Chiaro Massimo? E lo proteggo anche con la reazione massima, cioè benissimo. Con la pistola se ce l'ho, col fucile se ce l'ho. Se ti rubano una mela tu gli spari, tu ma sei cosa imbecille. C'entra? Dai Massimo, non è la stessa cosa, dai. Non è la stessa cosa perché il valore è diverso. Sto dicendo il valore della vita, Massimo, cretino, sei ancora più cretino. Sto dicendo dicendo un'altra cosa. Se uno entra dentro casa, se uno entra, ruba una mela. Ma che ne sai che ruba una mela? Non è che uno entra dentro casa per rubare una mela. Dai, non essere stupido. La più di quanto non lo sei già. Protegge la vita tua nella tua casa, non la tua mela e neanche la tua pelliccia. E ripeto, cretino, adesso denunciami tu. Ma io non ti denuncio per niente, non me ne frega nulla di denunciarti. Io lo questo farò invece. Lo lascio a Parenzo. Anche la perché io sono un lavoratore, tu hai detto che non te ne frega un cazzo delle morti sul lavoro. No, io non ho mai detto questo. L'hai detto prima, fatela rimandare. No. Che io sei cretino e anche rimbambito, non ti ricordi manco quello che dici. Ma che dici, Massimo? Sei impazzito, non me ne frega nulla delle morti sul lavoro. Sto dicendo che quello è morto, che quello là è morto mentre stava lavorando. Cioè, mentre, esatto, ma quindi era... a te non te ne frega un cazzo perché è una morte sul lavoro. Vabbè, hai impazzito. Detto tu. Sto dicendo che era un lavoro particolare, cioè quello del ladro in cui si può mettere in conto questo il fatto. È quello che dici adesso, non è quello che hai detto prima. Ho detto la stessa e cosa. Ripeto, sei rimbambito, non ti ricordo quello che dici. C'hai i buchi nel cervello, evidentemente. I buchi grossi, ma grossi nel cervello, grossi. Grossi buchi nel cervello. E ti renderei conto che i buchi ce li hai tu nel cervello. Grossi buchi nel cervello. Enormi buchi nel cervello. Capito? Enormi. Allora siamo buchi. In due. Cristian Torino, ciao Cristian. Ciao Giuseppe, buonasera Parenzo. Dimmi Cristian. Devo dire che abbiamo messo in una bella agitazione, Massimo De Roma. Dimmi comunque Cristian, volevo fare un appello. Dovete, cari italiani, sono 20 anni che vivo in Italia. E dovete lottare per conquistare questo diritto. Quale diritto? Di difendersi, cioè, nella tua casa, il tuo lavoro, bisogna difendere, cioè, bisogna essere passata questa legge, perché ti racconto, io vengo dalla Transilvania, di Bistrica, e io mi ricordo anche da piccolo con il mio nonno che sono entrati in casa da noi, sai cosa li fanno i ladri? Anche adesso, al giorno d'oggi, le spezzano le ginocchia, e i gomiti, solamente questo li fanno. Sì, chi? Dove? Ai ladri. In Transilvania. Ma dove lo fanno? A chi lo fanno? In Transilvania. Sì, ma in Transilvania a chi? Ai ladri. Ma chi lo ai fa a chi? Ai ladri che entrano dentro casa, ma chi? Le persone che sono... Mica la legge è prevista di spezzare... La legge anche adesso, al giorno d'oggi, la legge è legge, perché gli danno anni pesanti di galera. È per questo che tutti i romeni, e pace all'anima di quel ragazzo lì, che vengono tutti qua... Tu sei romeno, hai provi pietà, un sentimento di commozione per quello morto lì all'odio, non te ne frega nulla? Cioè, sinceramente, devo dirti che non me ne frega niente. Ma certo, cioè, ma è normale, ragazzi, ma non è che uno si può stare lì, c'è il morto, c'è peggio, il morto. Credi. Ciao Cristian, ciao. Le voci da Lodi. Pronto. Buonasera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Come sa, un ristoratore a Casaletto Lodigiano ha ucciso un ladro che stava rubando nel suo bar-ristorante. Noi le chiediamo, lei cosa ne pensa? È giusto che abbia sparato al ladro? Gli darei il premio, medaglia d'oro. Non ha pietà per il ladro? No. Neanche un po', perché sono stati anche a casa mia. E mi hanno portato via tutto. Mi hanno portato via tanto e nessuno mi ha dato niente, ok? Secondo me, come ho dichiarato già altra gente qua, ha fatto bene, però l'abbia fatto proprio per difendere tutta la famiglia, erano tutti lì, figlio, moglie, nuora e 3 nipotini, io avrei fatto uguale. Le dispiace per il ladro morto? Se non fossero così delinquenti non succederebbe, perciò pietà per lui non ce l'ho. Sono venuti dentro della campagna di dietro per andare del signor Mario. Sì. Sono venuti, io ho visto tutti i carabinieri stamattina stando alla finestra che erano là avanti e indietro, ho detto, ma arriverà un morto al cimitero. È un morto, in effetti ci è arrivato. Signora, secondo lei ha fatto bene il signor Mario a sparare? Sì, ma lui va a caccia a Mario. Ci sono il bar dei cacciatori. Lei teme che questi ladri possano venire anche a casa sua? Ma io non so più qua da sola, no. Ma voglio andare via. Vado della figlia. Ho paura. Ho paura perché qui la notte girano, Ma io penso che quando uno entra in casa ad un altro non ha nessun diritto, quindi anche se viene eliminato ha fatto bene. Quindi è giusto che il signor Mario abbia sparato? Certo. Le dispiace per il ladro che è stato ucciso? Neanche un po'. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, pubblicità. La Zanzara. Essere fan della Zanzara da una vita ti può portare gravi problemi, eh? Io sono qui al lavoro a BBC News a Londra. Sapete cosa mi succede ogni volta in cui sono in una riunione importante in cui si parla di grandi temi? Mi viene in mente Talby. Quindi io sono lì che ascolto un caporedattore, un direttore parlare di politica internazionale o di conflitti e penso: parla di figa, per favore, a noi non frega un cazzo di niente. Guardate che grave, molto grave. Io sono sicuro che Parenzo ingula Cruciani e Cruciani si ingula Parenzo, due proprio finocchi di prima categoria, due polipi. Ciao Giuseppe, sono muslim, bottaniere, voglio aiutare Susanna. Capisco il momento, perché solo un bottaniere vero capisce il momento particolare. Mandami Liban, voglio aiutarla. Ciao, siamo al top. Ma ha ragione Parezzo, ma che colletta quella prostituta. Se proprio vogliamo fare qualcosa, visto che con 20 euro comunque la Susanna una pompa te la fa, andiamo tutti da Susanna e facciamola lavorare, insomma, no? Così poi la multa se la paga da sola. Cazzo, do 20 euro a babbo morto in questo modo, almeno un pompino. O no? Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Parcheggiatori abusivi di Napoli, sentite. Quanto chiede lei? No, a piacere a me qua. 3 minuti, la moto tengo 55 anni. Poi striscia blu. E come si fa qua a striscia blu? No, fanno i grattini e poi mi offre me il caffè. Allora, anche se mi voglio mettere in galera, che arrestano tutti i parcheggiatori che ce ne sono a migliaia, più di 24 ore dentro non posso stare. Dopo, uscite da carcere, io che ho 5 figli e una moglie, che devo fare? Devo uscire, arresto domiciliare, devo fare una rapina. Se non ho lavoro, se non lavoro come parcheggiatore abusivo, faccio una rapina. Questa è l'alternativa che c'è a Napoli secondo questo parcheggiatore, ragazzi. È una follia assoluta. Allora, qualche ascoltatore, poi un altro ospite lì da Strasburg, eh? Andiamo con è qui. Alessandra da Trento. Vai, Alessandra da Trento, preparatevi, eh. Tu la sai Bella Ciao? David, Bella Ciao, la sai bene a la memoria, canzone Bella Ciao? A bene. Memoria. Di' al tuo ospite memoria, che la ripassasse sul momento, poi scopriamo chi è. Di' che ripassasse Bella Ciao, così ci fate un bel canto comunista voi due, eh. Alessandra, Trento, vai. Non è comunista, buonasera, non è comunista. È uguale. Il canto dei partigiani che dovresti cantare anche tu, non è comunista. Vai. Su quello che è successo a Lodi, anche se so che ne avrà piene le tasche. No, vai Alessandra, vai. Ecco, no, quello che volevo dire è che non sono assolutamente d'accordo con quello che ha fatto quel signore, anche perché le premetto che io ho già subito della violenza, so cosa vuol dire, perché mi sono ritrovata con un coltello puntato addosso, una volta con una pistola. Cioè, non è in questo il modo per risolvere le cose. Io credo che il signore, io capisco che lui aveva giustamente il diritto di difendere la sua proprietà, la sua famiglia, però poteva chiamare i carabinieri, poteva chiamare l'autorità, sì, pubblica. Chiamiamo i carabinieri mentre quelli là magari stanno cercando di entrare dentro casa con le pistole in mano. Ragazzi, ma di che state parlando? Ho capito. Ha scelto una strada, poteva fare così come dice lei, signora, oppure scegliere un'altra strada, che è quella di proteggere nell'immediato la sua famiglia e i suoi beni. Ha scelto questa seconda strada. Tutto si può fare, non criminalizzarlo e non portarlo al patibolo, né portarlo davanti a un tribunale, secondo me. Secondo Parenzo, invece, bisogna indagare. Sì, va bene, indaghiamo, per carità. No, c'è già la legge. Ma certo, è la legge che dice che bisogna indagare. Ma che sì, c'è un morto. Indaghiamo. Ma no, indaghiamo niente, c'è un morto. Scusa. Ah sì, ma in 3 giorni vanno risolte queste cose. 3 giorni, non se quello ha colpito alla schiena, se quella traiettoria, l'autopsia, Arriva l'ispettore Ma esiste già la legittima difesa, te l'ho spiegato mille volte, la gente per difendersi può sparare, bisogna accertare. Posso dire una cosa solo? Senti, comunque voglio dire una cosa, Salvini che va a farsi i selfie con una persona che ha sparato, che per carità l'avrà fatto in buona fede, è uno che balla sul morto. Salvini è un signore che balla sulla politica, fa i selfie, no, non si fa politica con i morti, politica lo anche ha fatto così, con i barconi, lo fa, ma no, perché quelli perché che vanno a Lampedusa, Lampedusa, quelli che vanno a Lampedusa quando ci sono le cose, quando ci sono gli naufragi, è uguale, è la stessa cosa, quelli vanno che dicono a portare la miseria, no, è la quelli stessa che vanno cosa. Gli dicono queste morti si potevano evitare, si potevano è evitare, non ballano su quei cadaveri, è la stessa cosa, è uguale, Alessandra, dovreste farvi un giro tutti voi a Lampedusa. Sola? Tutti al cimitero andate a vedere le bare dei bambini, quelle bianche. È uguale, è politica anche quella. Vai, ascolti, come si sentirebbe lei se avesse un vicino di casa armato fino ai denti? Ma no, io morirei dalla paura. Io no. Io dico se... io no. Ma scusi un attimo, io non io sono no. armata. Questo, io ho paura che mi arrivi una sera in casa, che mi bussi alla porta e mi ammazzi perché ho fatto la lavatrice alle 10 di ma sera, va, capito? Ma non diciamo stupidaggini, vai. Sì, in America è pieno di questi matti che esatto, mi danno spazio. Esatto. Orazio, provincia di Catania. Grazie Alessandra, grazie. Orazio, provincia di Catania, vai Orazio, vai. Orazio è prende la carica dei 101. Dimmi Orazio, dimmi. Allora, non hai avuto mai ragione, ma stavolta hai torto. Sì, ho torto, mo ho torto. Hai torto. Perché l'Italia è con me, per fortuna, l'Italia, l'Italia intera, l'Italia. Forza Italia, no, Forza Italia, che c'è l'Italia, ho detto, non Forza Italia, che me ne frega. Allora, l'Italia, va bene, d'accordo, vuoi ragionare oppure la mettiamo al casino? No, ma che casino, io ragiono benissimo, allora, amico mio. Un attimo. È arrivato il professore, è arrivato. Torto. No, quale professore? Io sono un cretino. Dimmi. No, non sei un cretino, chi ha detto che sei un cretino? Allora, ok, il ladro stava lavorando, se beccato il colpo è morto, vabbè, ma anche a me poi alla fine non me ne frega niente, non lo conosco. Bravo. Ma anche quell'altro che gli ha sparato, si becca il processo, fa parte del gioco. O sparava in aria, aspettava, vediamo che succede, cazzo. Sì, capisco. Vedremo che succede, no, così dentro quello tu, si rivolta, spara a minare e te spara in bocca quello. Ma okay, dai, hai ragione tu. Dai. Scusa, la mia sola opinione. Solo la mia opinione. Sì, per carità, è la tua opinione. Però in pratica quello che si becca il processo se lo becca e basta. Ma... come quello che si è beccato il colpo. No, mi dispiace, uno. non è così. Non ti piace. Non sono sullo stesso piano, non sono solo. Quello è un onesto cittadino che lavora. Quello è un onesto cittadino che lavora. Quello è un ladro che non doveva andare là. Questa differenza va rimarcata. Quello è morto. Quello è morto. L'altro c'ha un processo. Chi c'ha i cazzi è quello. Quell'altro è morto e manco lo sa di essere morto. Perché quando muori, non so, avrà sofferto. Oh, ma insomma, poi basta. Parli solo tu. Cioè, adesso chi c'ha i cazzi? Quello morto? No, perché è morto. Perché è morto, e dunque non c'è. No, diciamo. Che guarda, succede? Che 9 no, su 10, 9 su 10, queste persone non vengono neanche condannate. Poi, ma ovviamente, non è vero. Perché non è vero. Viene allora, qui si tratta di verificare se c'è stata o no la legittima difesa o l'eccesso colposo. Il processo glielo fanno civilmente, non è che lo mettono in piazza. Gli sputano. Gli fanno un uno processo recentemente, civile. Uno allora, recentemente, cazzi, ma se l'è cercata pure lo uno recentemente, cercata, recentemente no? Ha avuto un anno di condanna, ha avuto 18 mesi domiciliari. Un tizio, un agricoltore. Carità, ciao Orazio, ciao. Perché sotto, si vede, ciao, amico mio, ciao, che ciao, hai ceduto. Sì, hai ceduto delle cose. Certo. Hai ceduto della difesa, ovvio. Allora, da Strasburgo, accanto a Parenzo, ecco, come al solito, Cécile Kyeng. Buonasera. Buonasera. Che buonasera, succede? Con molto piacere. Come stai, Cécile? Come stai? Quante minacce hai ricevuto dai nazisti fascisti in giro per l'Italia? In quanti ti hanno minacciato questa settimana? Ormai non si contano più. Quanti perché... ti hanno scritto sporca negra? In quanti te l'hanno scritto? Tantissimo. L'ultimo è quello, sì, di pochi giorni fa, ecco, quello di Medesano, bravo, in provincia di Parma. Che è successo? Io sono andata a fare proprio a Medesano, dove addirittura è partito un testo da uno della Lega Nord dicendo indovinate chi è venuta da questa parte, per cui chi è venuta? È partita una raffica di insulti addirittura chi era pronto ad appostarsi con un fucile e chiedeva chi le rimborsava le munizioni. Hai capito cosa è successo? Hai denunciato il sindaco o no? Uno della Lega Nord. Sì, il sindaco ha denunciato. Ma tu hai denunciato queste persone o no? Che hanno scritto queste cose? Tu le persone che ti dicono sporca negra, le persone scusami, che ti dicono... mi ricordi di quale partito partito è? Mi ricordi, ricordami di quale partito è quello che ha scritto questa cosa? Non della, l'ho sentito. Della Lega Nord. Non ho capito, scusa, quale partito della Lega Nord. È? Dai, Lega Nord. Allora, quando qualcuno ti scrive queste cose, scusami, quando qualcuno ti scrive queste cose, uno ti dice sporca negra, cioè tu che fai? Li denunci singolarmente o te ne freghi ormai? Dimmi la verità. No, no, il problema non è quella di fregarsene, io comunque l'ho sempre spiegato abbastanza bene. Ma lo denunciano queste qua? Tiene no? presente, Cruciani, che io non ho mai denunciato nessuno, perché io credo che è responsabilità dell'istituzione fare delle leggi che proteggano le persone, non è che le vittime alla fine si devono difendere da soli. Ma tu ce l'hai l'ascolto o no? Io, sì, io l'ascolto, ma pensa a quelle che non ce l'hanno, proprio questo è il punto. Da quanto tempo ce l'hai l'ascolto? Allora bisogna cominciare a regolamentare, sono quasi 4 anni, sì, e bisogna secondo me cominciare a guardare bene anche il peso delle parole che una persona deve dire. Adesso ci andiamo, temi per la tua vita o no? Beh, temere per la mia vita, sì, questo succede, perché con tutto quello che gira su di me, guarda, Cruciani, racconto questa, perché questa per me è stata la più crudele, certo. È quella dei mercatini di Natale, sì, che mi ha causato talmente tanti problemi, che addirittura per la strada, gente che ti guardano e ti dicono... Ricordiamo cosa ha detto lei sui mercatini di Natale. Sì, allora, sui mercatini di Natale, poche ore dopo l'attentato di Berlino, esce un post, le solite bufale, che ormai su di me piovono come fake news. Dicendo che l'ex ministra ha dichiarato che bisogna abolire le feste di Natale, che i mercatini di Natale fanno male, perché e sono arrivate le minacce. Sì. E in pochissimi minuti 2000 condivisioni in cui sono stata insultata dappertutto dicendo che non avevo il diritto di parlare. Ho capito, così. Sì, io voglio dire e una questa cosa. Non si è fermata solo su Facebook, è uscito dal però virtuale per una trasferirsi cosa. Nella vita reale. Tu pensi, tu pensi, Cecil, scusami un attimo, che sono arrivate le pallottole a casa? Sì. Sì. No, pallotte la casa non adesso, ma in passato. Sì, in passato. Allora, cioè, io voglio capire una cosa: se tu non avessi la scorta, girassi senza scorta, e veramente temi di essere aggredita? Cioè, temi di essere aggredita, cioè senza scorta. Cioè, mi aggrediscono anche con la scorta, Cruciani. Cioè, in che senso con la scorta ti aggrediscono? Punto, non cioè, no, ma non con le parole, nei fatti, che fatti circondano la scorta, non credo. Cioè, tu temi per la tua vita mentre sei, che ne so. Sì, sì. Cioè, che dicono? Sì, sì, è successo pochi giorni fa, 3-4 giorni fa, in cui io uscivo dal ristorante tranquilla. Infatti, avevo scambiato la signora per qualcuno che stava chiedendomi l'elemosina, ma quando a un certo punto la scorta l'ha allontanato, questa invece ha cominciato a inveire contro di me. Se non l'avesse allontanato la scorta, questa mi saltava addosso, letteralmente addosso, perché dunque, ha cominciato a inseguirmi e noi siamo andati dunque, via. Dunque, sicuramente, se non ci fosse la scorta, tu moriresti se non ci fosse la scorta. Io ho raccontato solo l'ultimo, perché Cruciani, il problema non è io morirei, perché non posso fare la previsione, perché ti possono dare un pugno accidentale e tu cadi a terra, cioè io non è che lo però posso. Però è stata la persona più bersagliata della storia repubblicana dal 48 oggi, che ci si mette pazzesco. La persona, cioè, lei è un simbolo, lei deve tornare a fare il ministro dell'integrazione. Scusami, assolutamente, Cecilia, tu sei Gentiloni la persona deve chiamarla a fare il ministro, sei la persona più minacciata della storia della Repubblica. Certo, te. Ma sì, assolutamente. Almeno più insultata lei. Sì, insultata. Sì, guarda, no, Parenzo, li voglio portavoce, bene, li voglio portavoce. Veramente. Ti volete per bene, ministro. Volete ministro. Bene. Ci vogliamo bene. Ma quanto perché mi volete bene? È un grande, quanto perché mi volete è un grande bene. Simbolo dell'Italia. Sì, perché è il miglior simbolo dell'Italia. Abbracciatevi. Fate un bel abbraccio, fatemi sentire, ecco, lo schiocco sulle guance. Tanto non è più sposata. Non è più sposata la signora Gheng, che ti frega. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Ma non mi stava andando a divorziare in diretta. Ma non te ne separate con tuo marito? Io non mi sono mai separata. E che ne so, pensavo che... Scusa, baciate. Ma forse gli piacerebbe. Datemi un abbraccio, dai, Ancora, abbracciate. No, adesso. Voglio sentire schioccare... Ma l'abbraccio sempre, schioccare, perché per me è un simbolo. Schioccare le guance, sì. Quando quel... la signora Chieng e Parenzo. Ecco. Ah, bellissimo. E questo è il mio. Vabbè. Oh, il bacio in diretta dalla signora Chieng e signor Parenzo. Scusami, adesso, scherzi a parte, ho sempre detto che è stata la più grande genialata di Letta, quella di nominare lei, che oltre a essere un bravo medico, è un simbolo. tu sei inutile, inutile. In un periodo in cui, guarda, no, ma tu, adesso, scherzi a parte, veramente. Adesso lo rilancio io, guarda, ma magari anche più peso. Lo rilancio io perché in un momento in cui c'è la società in trasformazione, oggi abbiamo bisogno di un luogo dove bisogna gestire, questo fenomeno, ma anche, che serve anche da prevenzione di conflitti. Ma c'è bisogno, ma perché altrimenti ci troviamo allo sbando a non sapere accompagnare una trasformazione culturale. Bastano le leggi. Perché fermi, tu fermi. Sai che segnale forte è avere un comando ministro io, fermi. Adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Crucia, sai cos'è che mi ha rotto i coglioni a me invece? Sentire quattro scappati di casa della Lega che fanno populismo del cazzo sulla morte della gente, mettendo i negri o gli immigrati contro i poveracci, legando due cose che non c'entrano un cazzo. E tu, coglione, che gli dai retta pure, che dici ste cose, mi fai incazzare. Allora, ho individuato il modo per capire chi è il razzista, chi è il vero razzista. Il vero razzista è quello che ha la fotina col bambino nero sul profilo di Facebook. Ti spiego. Va in viaggio in Kenya, foto col bambino nero che sorride. Ah, non ha niente, eppure è felice. Ma perché se vai a Oslo o a Copenaghen non ti puoi fare la foto col bambino biondo di Copenaghen? Perché i genitori ti denunciano se lo tocchi. Non lo puoi fare, non ti permetti. Però col bambino nero keniano lo puoi fare. E allora tu sei un razzista. Ecco chi è il vero razzista. Non quelli che parlano male dei neri. Quelli che li trattano come delle scimmiette, che ci si fanno la foto e la mettono sul profilo di Facebook. Guarda come sono felici, come sono sorridenti. Mandatemene a fanculo, va. Allora, ragazzi, stasera, in un programma che si chiama Presa Diretta, uscirà fuori una specie di indagine, le grandi inchieste di Presa Diretta, che sembrano quelle della Zanzara, Parenzo. Il maschio si sta femminizzando, sterilità raddoppiata e soprattutto pene più corto. Il maschio alfa non c'è più e si sta femminizzando, pene più corto, testosterone ridotto e seno maschile. Ti giuro, è un'indagine, ma non lo dice la Zanzara. Qui c'è una signora, però. Ho capito, ma sta, ma stasera su Rai 3. Stasera su Rai 3, signora Chieng, le assicuro. Ho capito, va bene, sì. Ho capito, ma non è che lo dice la Zanzara qui. Ci sarà anche una signora. Il testosterone, l'ormone maschile per eccellenza di un uomo di 60 anni, è molto più basso. Rai 3, però questo è vero. È Rai 3, cioè il pene dei giovani di oggi è più corto di quasi un centimetro rispetto al passato. Abbiamo capito, grazie, abbiamo capito. Ci sono casi di uomini che sviluppano il seno. Cioè, uomini che sviluppano il seno. Ragazzi, è una cosa incredibile. Per esempio, una volta un uomo produceva 300-400 milioni di spermatozoi per eiaculazio. Adesso il 30% in meno. Ragazzi, questa è una roba che viene fuori dal Rai 3, servizio pubblico. Però. Non è la Zanzara. Il pene più corto. Abbiamo il pene più corto di un centimetro. Non c'è un cazzo da fare. Sono arrabbiato per questa cosa qua. Oggi, dai, su. Hanno fatto una ricerca scientifica. Cioè, medico la chiesa. Io sono medico, quindi ho fatto una ricerca scientifica. Lei che dice come medico, è vero? E non fanno altro che rilevare. È vero? È vero? E dicono l'evidenza, quindi c'è poco. È vero, se loro hanno fatto una ricerca è così, cioè, non so cosa dire. Vedo già il titolo di libro che dirà: shock alla Zanzara! L'ex ministro Kenj dice che gli italiani hanno il pisello. Ma ti rendi conto? Perché ribaltano tutto il libro, vedrà che lo diranno sicuro. Ma è vera questa leggenda che i neri sono più, diciamo, più prestanti dei bianchi dal punto di vista, come dire, della. No, ma li conosce, avrà conosciuto entrambi, sia neri che bianchi. No? Mio marito è bianco, no, appunto, mio marito, mio marito è bianco. Appunto. È vero o no questa leggenda che i neri sono più dotati dei bianchi? No, solo lei me lo può confermare. Bisognerebbe andare a provare, non lo so. Cioè, secondo la sua esperienza, è una signora, Secondo la sua esperienza, è vera questa leggenda o no? Che ma i neri sono più costanti. Un'esperienza di cosa? Beh, avrà un'esperienza, no? Sarà andata con un nero in vita sua. Dai, facciamo. facciamo un'indagine, non so, apriamo una commissione d'inchiesta. Scusa, lei sarà andata con qualche nero in vita sua, no? Sarà andata, avrà avuto rapporti sessuali con qualche Ma chi c'entra? C'è una... È vero o no, secondo lei, questa è come legge? È vero o no che i neri sono più prestanti? È quello che mi stai chiedendo, se sono divorziata o no, ma io no, sono sposatissima. C'erano delle voci, anni fa c'erano state delle voci, ma io voglio capire una cosa, secondo lei i neri sono più prestanti dei bianchi o no, secondo la sua esperienza? È vero, sta leggendo o no? Non lo vuole dire, vabbè. Togliamo secondo la mia esperienza, diciamo i testi, la leggenda dice così, dice, seguiamo la leggenda. Dunque è vero, i neri sono più prestanti dei bianchi, vabbè. Fisicamente, sono più dotati dei bianchi. Allora guarda, Cruciani, è diventata tutta rossa. Adesso è difficile che può diventare rossa. Sì, è tutta rossa. Sì. È difficile che può diventare rossa. È possibile, divento viola. Non è possibile, divento viola. Allora, diciamo un'altra cosa. Che diciamo? Che c'è molta gente che mi vuole bene. Quindi, quello lo sappiamo. Però 200 io... ci sono, è vero, Pisapia ha detto l'altro giorno, signor Pisapia, ex sindaco di Milano, che ci vogliono in Italia 200. Sai, lo sai che sta Ah, appoggia Renzi, bacio della morte per Renzi, finito Renzi, morto. Sta con Renzi, no? No, ma Cruciani, io ho scelto Matteo, io sono con Renzi, ero a Lingotto. Ah bene, sì. Si occhia anche con Renzi, bene, appoggia Renzi alla segreteria del partito. 200.000 immigrati l'anno ci vogliono secondo Pisapia, giusto secondo lei? Va bene 200.000 immigrati l'anno, l'Italia avrebbe bisogno almeno di 200.000 immigrati, così ha detto. Sì, ce ne renderemo conto nei prossimi anni perché... Dunque ci vuole di più, quanti immigrati, è giusto 200.000 come cifra che ha detto il signor Pisapia o no? Sì. Guarda, noi abbiamo bisogno comunque di avere delle persone. La natalità è diminuita, quindi possiamo anche prenderla da un altro punto di vista. No, ma la cifra è corretta che ha detto Pisapia, 200.000 all'anno? Secondo lei è una cifra giusta? Abbiamo bisogno di 200.000 immigrati all'anno? Sì, ha detto di sì prima. Ma, insomma... Se l'importante non è tanto per dire la cifra è giusta o no, l'importante è quella di avere delle leggi. No, va bene, d'accordo, ma Pisapia ha detto sull'integrazione, Pisapia ha detto una cosa, 200.000 immigrati l'anno. Lei ha detto sì, è vero, abbiamo bisogno di 200.000 immigrati l'anno. I rom sono i nuovi strano, i rom cioè, sono non i nuovi perseguitati? Niente... I rom oggi sono i nuovi perseguitati secondo lei? Cioè, sempre stati perseguitati, e lo sappiamo, io ho lavorato quando ero ministra, avevo la delega e anche per quei signori della Lidl, conosco bene quelli della Lidl, dovrebbero essere licenziati i due operai della Lidl che hanno messo nella gabbia le due rom? Guarda, i diritti sono uguali per tutti. No, questo quando si tratta di però, una persona, però risponda alla domanda, sono uguali per tutti. Se tu chiudi se tu chiudi una persona così e vai a violare i diritti di una persona, devi rispondere delle tue azioni. Devono essere licenziati, devono essere licenziati, benissimo. Perché i diritti sono uguali per tutti. Va bene, indipendentemente dall'origine della persona. Cantate Non è la Chienge che vuole gli immigrati, sono i nostri amici della Confindustria, questo ti voglio dire, non è Pisapia. 180.000, i nostri editori, giustamente, la Confindustria ha detto vogliamo almeno 180.000. La Lega è pericolosa per la democrazia, sì o no? La Lega è pericolosa per la democrazia, sì o no? Io ho detto in passato che se un partito è un partito razzista, cioè nel senso che si comporta con istigazione all'odio, come fa Salvini, perché le parole di Salvini istigazione all'odio. Io condanno all'odio. Ogni forma di violenza. Attenzione, ogni forma di violenza. Ma è fuori dalla democrazia la Lega o no? È fuori dalla democrazia la Lega, sì o no? È sanzionato anche dalla legge. Dunque, fuori dalla democrazia, la Lega dovrebbe essere messa fuori legge, secondo lei? No, io ho detto la Lega deve essere sanzionata, è un po' diversa. Anche non si capisce che significa però sanzionata. Sì. Comunque, quando uno incita all'odio... Vuol dire che subisce una multa, risponde davanti alla Salvini legge. Va messo fuori parole... legge. Salvini va messo fuori legge, secondo lei? Non dovrebbe stare in al Parlamento europeo? Ci sono delle regole che possono sanzionare. Per me sì, una persona che non rispetta i luoghi della democrazia, una persona che dovrebbe stare, è una persona che dovrebbe rispondere delle sue azioni. Vabbè, ma per cui se le sanzioni prevedono l'esclusione dal Parlamento sarà così. Va bene. Ecco, questa è la responsabilità delle istituzioni. Devono condannare con forza. Bene, grazie. Allora, Roberto dalla provincia di Roma, vai. Pronto? Dimmi. Cruciao, tre quarti d'ora che sono in linea, mi devo fare il bidet. Vai, dimmi, vai. Volevo proporre un sondaggio. Vai, dimmi. Allora, come piace agli uomini il pelo delle donne? Beh, ottimo, amico mio, però, ottimo. Però lo devi mandare avanti seriamente. Sì, ma io mando tutto avanti seriamente. Sì. Mando tutto avanti seriamente. Va bene. Fatemi sapere. Cioè, ma non ho capito, che molto... sondaggio vuoi fare? Tu come ti piace il sondaggio? Il pelo? La striscetta è la cosa più bella. La striscetta. Tu come la preferisci? Tu no, io preferisco la roba folta. La roba folta, no, molto folta. Che schifo, dai. No, non... bello, roba folta, il bosco. E Parenzo invece. Parenzo non lo vuole dire. Ogni Parenzo, volta. La striscia, però, anche sapete, lui la striscia. La striscia. Parenzo, come sapete. Parenzo non piace si la striscia. Non la striscia di Gaza, ma la striscia sì. Non la striscia di Gaza, ma la striscia sì. No, quella di Gaza no. Non parla davanti a 2 milioni di persone di fatti che riguardano. L'intimità è il bello dell'intimità. Mauro da Udine, vai. Sì, Mauro, posso parlare? Vai, Mauro, dimmi. Allora, io ti devo fare. No, non sento niente. Gianfranco da Terni, vai. Gianfranco. Nulla, chiudi tutto. Gianfranco, dimmi. Pronto. Allora, dimmi. Un incisino, mi servono 2 minuti. Dai. Uno, il professore Di Fredda ha detto che il 90% degli italiani sono di italiani, della popolazione è stupida. Ma se anche fosse solo il 10%, pronto? Se anche fosse solo il 10% della popolazione stupida, sicuramente ci sarebbe dentro Parenzo, non ci sono dubbi. Ma anche il 5% comunque Parenzo ci sarebbe sempre. Perché dentro. Perché è stupido? Perché è una cosa ignobile, quello che buonasera. Dice è raccapricciante. Perché? Benvenuto. È un altro inciso. Buonasera. Poi voglio parlare dopo al volo, dopo te lo dico. Adesso poi per quelli guardano la tazza, benvenuto. Prima messo benvenuto. Una volta messo Parenzo dentro e scaricato 4 volte... Per accertarsi che realmente non venga più su dalla tazza, tenere chiuso assolutamente il coperchio del VC. E anche con un lei ha avuto una vita serena? Lei ha avuto una vita felice, serena, mi pare. Io ho una vita felicissima, guardi. E adesso io spiego anche per quale motivo. Uno, ma com'è possibile che noi accogliamo questi manninghi che vengono dall'Africa? Sono 900 milioni in Africa. C'è gente che vengono i mandinghi? I mandinghi sono tutti mandinghi quelli che arrivano. Se uno e io perché dico che il 90% è stupida, io lo spiego perché. Ma perché vengono i mandinghi? Chi sono sti mandinghi? I mandinghi quelli che arrivano, africani che arrivano con le ma chi cose, sono quelli che hanno la spada de fuoco, i mandinghi? Chi sono quelli con la spada de fuoco? A te fa paura? Sono i neri moscosi che arrivano, che non c'entrano niente con la fame. Quelli che sbarcano in Italia non c'entrano niente con la fame. Questo è vero, chiaro? Molti non c'entrano niente con la fame. Nessuno, se uno vede la televisione con un attimo di attenzione, hanno fatto vedere i 50 profughi siriani che sono arrivati con l'aereo, che erano bambini abbracciati alle mamme, bambini al seguito, tutti vestiti, smolti, macilenti, pieni di sofferenza. E quelli senza dubbio sono quelli che scappano e che tocca solamente accogliere con grande, emozione. Ma che noi possiamo andare cercando e accettando queste persone che arrivano, che non c'entrano niente, 900 milioni. Bravo, bravo Gianfranco! Quelli che hanno bisogno, sti mandinghi, questi... che c'entra? Che so sti mandinghi? No, sono quelli che arrivano, non c'entrano niente con la fame. Quelli che ma perché li chiami mandinghi? Questo è interessante. Perché il muscoloso è mandingo. Tu c'hai paura per tua moglie, secondo me. Tu hai paura per tua moglie che questi qua se la ripassano, che questi qua se la ripassano. Ma non me la ripasso, ci sono tu perché mia moglie comunque ovviamente è un'età che non è da ripassare. Ma anche tu, secondo me, anche tu. Perché sono super armato, chiaro? Super armato, in che senso? Posso sfidare. In che senso sei super armato? Sai che sembra Vissani? Io sono un italiano armato molto bene. Ma perché che c'hai? Che sei cacciatore? Che c'hai? No, non sono cacciatore. Tra virgolette, avresti capito che di che cosa sono armato. Ma non è un problema. Di che sei armato? Io sono un discreto. Hai capito di che sono armato? No, di che sei armato? Sì, ho capito, ma di che sei armato? C'ho un abbondante fallo, Gianfranco da Terni. Questa è una notizia. Meno male che le borse di Tokyo è chiusa perché. Sì. No. Terrore sui mercati. Scusa, quanti centimetri, Gianfranco? E poi, lascia bene, adesso. Abbondante palo, me l'hai presentato come sta cosa, meno di 2 centimetri, no? No, non è un problema. È un dettaglio che voglio dire. Ma è una bestia vera, è una bestia comunque, vera. Premesso che questo è così. Ma è una bestia poi, vera o no? È una bestia vera. Ma certo è una bestia vera, ci sono dubbi. Premesso che questo è quello che io ritengo che è una cosa giusta. Per quello che riguarda il all'Odi, allora, quando uno entra dentro casa, si toglie le scarpe, si mette le ciabatte, poi va al bagno, si sciacqua le mani, si mette tutto e mangia, sta nel suo ambiente. Quando un altro cristiano esce dalla sua casa, dopo che si è messo le scarpe, chiude la porta e si mette concettualmente l'idea di andare a rompere le scatole su un'altra famiglia, a delinquere un'altra famiglia, se quello fa questa azione e ci parte da casa, forse si è lavato anche i denti dopo che ha mangiato, è partito da casa, non deve andare a delinquere. Se quello entra dentro la mia proprietà, io sono tranquillamente a prendere il caffè, tiri fuori le io gli sparo. Se ho modo gli sparo, non ho armi, purtroppo non ho armi. Ce n'è solo una. Aspettiamo, c'ho soltanto una, esatto, ma quello non va bene. Posso utilizzare qualche ferro da corsa che fanno molto male. Però tu gli puoi sparare, entri dentro casa mia, te sparo. Fabio da Messina. Ciao Giafra, ciao Fabio Messina, vai. Abbiamo trovato pure il super dotato. Fabio, vai. Oh, Enzo Padova, vai. Incredibile, Fabio da Messina domani. Eccomi qua, buonasera a tutti, grazie Cruciani. Dimmi, vai. Volevo dire solo una cosa, mi vergogno di essere italiano nell'essere rappresentato da Cécile Kyeng. Mi vergogno di essere italiano quando penso a Parenzo. Io chiamo da Padova, ho visto muovere i primi passi al signor Parenzo. Non avrei mai pensato che si vergogni. Fosse sono arrivato felice. A tanto mi provoca gioia che ha fatto sapere che persone devi, come lei no, ti devi vergognare sapere che persone dico, sono felice sono quando Spatalio persone Padova, come sono lei un giornalista ti devi vergognare quando, hai detto poc'anzi un giornalista è mezz'ora che ti sto sopportando fammi fare le crasse risate un giornalista dell'integrazione vi dovete ottimo, vergognare ottimo, siete ministro. Voi che avete rovinato l'Italia è stato l'Italia. Un ottimo ministro è stato voi l'Italia avete rovinato l'Italia voi Enzo ti chiamo avete domani avete saccheggiato le case ti chiamo domani avete violentato le nostre donne Enzo ti voi, chiamo domani voi, per, una, per una grande battaglia con Parenzo ti chiamo domani Davide da Torino paese. Fabio da Messina Enzo da Padova e tutti quanti che ci avete sopportato andate anche stasera paese, tutti Parenzo vai a fare in culo a Strasburgo buona cena ciao amico mio, ti amo. Voi ci dovete far sbellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lo dica, a casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Giuseppe, ma tu lo sai che è tornato di moda il pelo? Radio 24. Libera la voglia di fare.